Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Sto qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Che sia la zanzara, che sia la gabbia a parlare di TTIP, David Parenzo rimane l'uomo del buon senso. Altro che Riccardo da Roma Fan Club, io voglio David Parenzo candidato alla presidenza del Consiglio. L'uomo della ragione e del buon senso in un paese di merda pieno di analfabeti funzionari del cazzo. Forza Parenzo, abbasso Crociari. Ma che c'entra questo? Non ho capito. Cresciamo, cresciamo, il partito del buonsenso cresce, cresce, c'è. Bravi compagni, lottate, ci siamo, compagni, siamo presenti. Di cosa? Fermiamoci qui, chiudiamo la trasmissione 18.35 su questo splendido messaggio di questo grande ascoltatore che ha mandato sei il suo WhatsApp. Sei proprio un lecchino, vocale. Guarda, sei proprio no. Veramente un no, lecchino. No, ma il buonsenso, questo paese è meglio di come lo vuoi rappresentare tu, è meglio, è un paese dove ci sono le donne che lavorano, che vanno a prendere i bambini allora a scuola, non ho capito. È un paese dove i disoccupati cercano di, si danno da fare, è un paese dove i migranti lavorano. Ma cosa c'entra? È un bel paese, è bello, tu ogni giorno fai un'opera, non dico di scristianizzazione, fai anche questo, un'opera c'è di dubbio. Scristianizzazione del paese, ma fai un'opera di demolizione di quei grandi pilastri che hanno reso grande questo paese, questa Italia, che è un'Italia che non vuole la Lega, ad esempio, è un'Italia che se ci dici? Salda, solidale, cooperativista, un'Italia, che, un'Italia che è orgogliosa di quel tricolore, delle questo bellezze Renzi, italiane, Renzi, ormai è impazzito. Delle bellezze italiane. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo da Salvini che dice che al ballottaggio sì. A Roma ecco, voterebbe per la Raggi, sì, se non ci fosse la Meloni, ovviamente. Voterebbe per la Raggi, cosa che aveva già detto in realtà un paio di mesi fa. Però non c'è nulla di nuovo in politica. Le parole si ripetono continuamente. Io, un uomo del PD, al ballottaggio non lo voto neanche se costretto sotto tortura. Quindi se al ballottaggio c'è Raggi, Giachetti, lei vota Raggi? Sì, sì, sicuramente io non voto il PD. Va bene, quindi, questo l'abbiamo. Quindi in quel caso voterei sicuramente la Raggi. Ma non si capisce perché oggi ha detto che non ha detto una cosa del genere. Scusate il gioco di parole, ma di che stiamo parlando? È abbastanza chiaro, ma l'aveva già detto prima. Nel caso di un ballottaggio a Roma tra la Raggi e Giachetti, siccome non vuole votare uno del PD, non vuole votare uno del PD come Giachetti, vota la Raggi. Ma è una cosa abbastanza evidente per quanto possa pesare il voto di Salvini a Roma, no? Sì, allora, sempre a Roma, alle elezioni c'è il signor Marchini, il quale non si capisce perché non vuole ostentare il fatto che possiede una Ferrari. Cioè, e dunque. Ma in giro con la Panda, in sì, genere, ma ragazzi, no? Però. La Ferrari, signor Marchini, è molto ricco. Uno deve avere anche il coraggio di dire: io sono una persona molto ricca, ho le Ferrari. Magari non esci con la Ferrari ogni giorno in campagna elettorale, no, questo non fa bene. Però invece dovrebbe farlo, te lo dico io, dovrebbe farlo, dovrebbe andare a fare i comizi presentandosi con la Ferrari. Beh, amico mio, scusa, se ce l'hai a casa, no, ma io voglio dire, perché è come se Trump dice no, però non sono ricco. A Trump non è che fa mistero della sua ricchezza, viaggia in tutta l'America col jet privato, cioè non credo che abbia bisogno dei finanziamenti elettorali, al di là di qualche problemino finanziario che ha avuto pure lui, ma insomma non è uno che fa mistero della sua ricchezza. In America nessuno nasconde la ricchezza, in Italia invece dobbiamo un po' nascondere, fare finta che non ce l'abbiamo. No, io in realtà la Ferrari, no, qui la Panda. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Bisogna anche ostentare quando uno possiede, ostentare, non come dice il Papa, che bisogna fare il richiamo alla sobrietà, rinunciare ai beni non necessari, bruciare sul rogo le ambizioni. Ma di che stiamo parlando? È il contrario, l'economia funziona e gira soprattutto perché si comprano beni non necessari, altrimenti saremmo tutti morti. Parenzo, tu dovresti essere il primo a dire una cosa del genere. Sì, dovresti no, essere il primo. Il superfluo, spreco. Bisogna spendere il superfluo, anche il superfluo, come no? Io per esempio non spendo un cazzo, per cui è. Però tu sei un esempio contrario, tu. l'hanno vista, diciamo, arrivare dalla città a bordo di una Panda e poi salire in autogrill a bordo di, invece di una Ferrari grigia molto, insomma, più roboante. Vorrei chiederle se si è trattato di una casualità o se è una scelta, no, diciamo, no, di sobrietà quella di non girare in città in Ferrari. Sì, sì, è una scelta che io faccio da tutta la mia vita. Io da tutta la mia vita mi hanno insegnato che il benessere è qualcosa che non si ostenta, che la sobrietà è opportuna e giusta, e quindi lo faccio sempre. Mi dispiace per il mio amico Marchini, lo conosco, eccetera, ma io non sono d'accordo. Cioè, se uno è ricco, molto ricco, non si capisce perché non debba girare in Ferrari, non si capisce perché non dovrebbe ostentare, non dico ostentare, dire «Oh, vedi, sono ricco, voi non siete un cazzo!» Non devi fare come il Marchese del Grillo. Devi semplicemente mostrare quello che hai. Cioè, non devi nascondere il fatto che hai la Ferrari, non devi nascondere il fatto che hai i soldi, che ti può permettere questo, che ti può permettere... Anche perché poi alla fine si sa tutto, no? Ormai delle cose delle persone. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Oh, poi è montata nel weekend, montata, diciamo, per modo di dire, la questione vaccini, caro Parenzo, di cui ci siamo occupati a lungo anche noi qui alla Zanzara, cioè quelli che sono contro i vaccini, eccetera, eccetera, ma soprattutto è montata una discussione intorno alla presenza in una trasmissione televisiva che si chiama Virus, sì, condotto dall'Ottimo Porro, che vogliono cancellare dalla Rai, no, secondo me inspiegabilmente, ma comunque lasciamo perdere. È montata una polemica riguardo alla presenza di Red Nonni e della signora Brigliadori, Eleonora Brigliadori. Ora, a me non mi interessa signora quello Brigliadori che dicono. È la stessa signora che ogni tanto degusta, diciamo così, fa uso, diciamo, della cosiddetta urinoterapia. Sì, nel passato, ecco, si era servita dell'urinoterapia. Però al di là di questo, la questione dei vaccini, adesso poi ne parleremo, eccetera, eccetera. Sì. Però è molto semplice. Non si capisce per quale motivo. E lo dice uno che certamente non è d'accordo con le teorie di Red Ronnie e della signora Brigliadori sui vaccini, se secondo me i vaccini servono, punto e basta. Appunto. E dopodiché poi si può aprire una discussione, si può discutere, eccetera. Discussioni che vuoi, ma non aprire. Si capisce per quale motivo il signor Red Ronnie non debba essere presente alla RAI a parlare, non possa fallire, parlare alla RAI. Ma di che parliamo? Ma chi lo Porro, dice questo? Ma un sacco di gente dice che anche al medici, no, della medicina ufficiale, eccetera, eccetera, della medicina ufficiale, insomma, della medicina, dicono che cosa? Che non si può affidare un dibattito, una discussione alla signora Doroni e alla signora Brigliadori. Ora, il punto non è questo, ognuno organizza le trasmissioni televisive, non è Salute 33, come cazzo si chiama quella trasmissione, non è TG2 Salute, non è una cosa ufficiale, è un talk. Ognuno organizza le trasmissioni come diavolo vuole, soprattutto alla RAI. Basta con queste cose che il servizio pubblico non può permettere a Red Ronnie di parlare. Io non sono d'accordo con quello che dice Red Ronnie, però ha tutto il diritto di esprimere le proprie idee, ha tutto il diritto di dire quello che vuole sui vaccini senza che nessuno dica no, è una trasmissione della RAI, allora ci vuole la medicina ufficiale. Ma no, ma questa è una stronzata, non è così. Red Ronnie e i vaccini. Red, è obbligatorio o no vaccinare i bambini? È assolutamente demenziale. Scusa? Demenziale. Cioè, nel senso che è assurdo. Non puoi obbligare a vaccinare i bambini. Oh, l'amico Ronnie è lo stesso che dice che è vegano dal 1990 e non si ammala da allora. Cioè, secondo lui i vegani sarebbero praticamente immuni da qualsiasi malattia, in particolare lui dal 1990. La più grande prevenzione contro le malattie la fai con l'alimentazione. Io me ne sono accorto sul mio corpo, perché io, essendo vegetariano, poi vegano dal 90, è dal 90 che io non mi ammalo, non prendo influenze, non prendo antibiotici, niente. Il nostro corpo prevenisce da solo, previene, no? Lui dice prevenisce, perché c'è scritto prevenisce qua, mi hanno scritto, in realtà lo dice lui, prevenisce. Io ho letto quello che c'è scritto qua, previene naturalmente, previene, prevenisce da solo, è quello che dice Red Ronnie, non mi rompete i coglioni. Lei dice la prevenzione avviene col vaccino. Sì. È l'errore più grave, perché il nostro corpo prevenisce automaticamente con le difese immunitarie. Signor Red Ronnie. Bene, signor bene. Red Ronnie, ma al di là di prevenisce, previene, sì, eccetera, eccetera, non è quello il punto. No. Questa è l'idea di Red Ronnie. Ora, ragazzi, folle, pazza, pericolosa, quello che volete, pericolosa, secondo sì, alcuni pericolosa, pericolosa per la salute pubblica, ma va bene, certo. Tutto no, va bene, ma la cosa pericolosa è, per la salute ha pubblica. Il diritto di esprimerla, sì o no, bene, sì. Ma certo, ma chi dice che non ha diritto, signor Porro su Viris, ha il diritto a non avere rotture di coglioni perché invita Red Ronnie e la signora Brigliadori? La risposta è sì. Oh, pare che il Papa ne abbia detta una giusta, caro Parenzo. Pare che il Papa ne abbia detta sì, una sugli giusta. Sugli animali, ho visto. Sugli animali, sugli animali. Allora, sentiamo subito la frase. Ovviamente gli animalisti sono scatenati su questa cosa qua, eh. Si sono scatenati contro il Papa, che in questo caso, devo dire la verità, mi fa un po' fatica ammetterlo. Perché dare ragione al Papa è quasi scontato, lo so, no? Perché sei, cioè, dice, proprio scristianizzato. No, ma non è tanto quello, perché insomma uno dice, beh, il Papa ha ragione. In questo caso è vero che ormai è un tuttologo, cioè parla di qualsiasi cosa. No, ha detto cosa. Una cosa molto forte, cioè, beh, anche impopolare, beh, perché molti molto, sono molto forte, lo abbiamo beh, saputo. Beh, sì, perché sappiamo. Sono molti quelli che hanno gli animali, quindi è impopolare. Lui vuole dire, ci sono un sacco di persone che vogliono più bene ai propri gatti, ai propri cani, che non al vicino. Questo però è abbastanza comprensibile, eh. Cioè, diciamo la verità, adesso ripensandoci bene, ha detto una banalità il Papa. Ha detto una grande banalità. Beh, no, ha detto una cosa molto vera. Sì, invece. Però una banalità enorme. È chiaro, che io voglio più ai bene ai nostri cani, ai gatti, al criceto che nella ruota gira. Più che agli esseri umani, dici. Più che agli esseri umani che magari ci muoiono nel pianerottolo vicino. Andiamo. Però siamo lì a fare le carezzine al gatto. Andiamo, andiamo. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. No, no, Però in questo caso il Papa vuole dire una cosa: l'essere umano è sempre più importante dei cani, dei gatti e degli animali. Questo vuole dire, in fin dei conti. Non è che ha detto che odia gli animali. Non ha detto, lo so se dice questo. Secondo dice me sì, che l'essere umano è sempre più importante. No, dice che non sappiamo mai guardare l'altro. Che guardiamo sempre, che il nostro cane, siccome è nostro, abbiamo una certa cura. Dell'altro ce ne fottiamo. Questo secondo me è il come senso. Sei alto oggi, no, no, nel tuo ragionamento. Sempre sei alto. Sempre, è semplice, sempre. È un ragionamento molto, cioè, piano, dici, siamo sempre. No, tu dici, cioè, il poteva dire cane, anche, poteva dire anche la propria, che ne so, sì, però il nostro oggetto, la nostra casa, la nostra agenda, il nostro telefonino, il nostro iPad, il nostro iPhone, quello che beh, vuoi. Però non è un caso però che ha detto cane e gatto, dai. No, esatto, ha detto quello per dire le nostre cose, i nostri cani, lì a fare le carezzine, i nostri cani. Poi c'è uno che muore davanti alla casa nostra e ce ne freghiamo, questo ha detto, una cosa di buon senso. Il silenzio. Sono da solo in mezzo a un bosco e del traffico non me ne frega un cazzo. La zanzara. Noah chi ama gli animali e ignora i vicini. Il Papa come Cruciani. Siamo al top. Sì, potremmo dire questo, che il Papa si è improvvisamente crucianizzato e la mia opera di redenzione è arrivata a questo punto, caro Parenzo. Cioè, praticamente il Papa si trasforma, non è mania di grandezza questa qua, è la realtà. Un momento, buonasera. Mi segnalano che il governatore di questa baracca, che si chiama Sole 24 Ore, sia tal signor Roberto Napoletano. Ora, è il direttore a parte baracca, guida questa baracca. Ora, sì, a parte il fatto che trovo di cattivo gusto trovare questo pseudonimo Napoletano, per chiamare magari in un altro modo, Roberto Bergamo sarebbe stato migliore. Dice, come si chiama il Napoletano? Perché? Ma vabbè, perché a Napoli non funziona niente, quindi trovo strano, ma non voglio entrare nel merito. Trovo strano il fatto che questo che signore c'è? Non abbia scelto tra i suoi collaboratori di punta di questo giornale uno dei massimi esperti di operai, fabbriche, vertenze, quale Mario Capanna. Leggo, scusi, che gli editorialisti, ma lo dice lei, proprio lei. Certamente. E io che ho vitalizio ritengo di essere adatto a entrare nella baracca del Sole 24 Ore e diventare una delle punte di firma. Ma non volevo entrare in polemica con questa, una delle punte di firma, no, ma è al di contrario, questo giornale. Si dice. Comunque, vabbè. Nella realtà dei fatti, chiamo, sì, e mi intrometto perché c'è una notizia straordinaria che deve essere assolutamente presa in considerazione. Il signor Nicolas Maduro, che è il successore del compagno Chavez, sì, che ha, fatto, ha appena insomma, preso un provvedimento straordinario, cioè ha chiesto agli operai, ha chiuso le fabbriche e il popolo si è impossessato delle fabbriche. I proprietari delle fabbriche stesse sono stati messi in galera. No, allora, non questo è possibile. Certamente, questo avviene nello stato civile, un paese civile, qual è il Venezuela? Trovo tutto questo straordinario. Credo che in questo momento i consigli di fabbrica della Fiat, ma non c'è nessun della consiglio. Bomba 6, dal nord al sud, debbano prendere esempio dal compagno successore di Chavez. Anche signor Boccia dice anche... occupa immediatamente, convergano tutti nelle fabbriche, le occupino e poi arresteremo i proprietari delle fabbriche e le porteremo in galera. Ecco, questo è un paese civile, il Venezuela. Dimostra ancora una volta che c'è civiltà, compagni e compagni. Allora, dove andiamo? Andiamo a Firenze da Francesco. Solito numero, annunciamolo sto numero. Su, dai ragazzi, forza, vai. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vai Francesco. Eccomi. Allora, volevo dire solo due cose. Una è che io non ho vaccinato mio figlio, che ha 2 anni e mezzo. Sì. E quindi, come prima considerazione, le vaccinazioni non è che uno sceglie così di a cuor leggero vaccinare o meno, sono motivazioni. Vabbè, non hai, hai deciso di non vaccinarli, ma hai paura che diventi autistico o cose di questo tipo che si dice o no? Assolutamente. E che ne so, siccome alcuni dicono questo. E ritengo che una persona come Red Ronnie, andando a un servizio pubblico a dire certe cose, è. Non è la persona adatta per parlare di questo. No, io non sono d'accordo su questo. Non sono d'accordo. Ma non è che possono parlare solo gli scienziati in un convegno. Scusa, abbi pazienza. Aspetta, Francesco. Va, Red Ronnie in un talk. Non era un convegno medico. È un talk. Invitano Red Ronnie perché ha più capacità comunicativa di magari di un medico. Bravo, vedi, no, vedi, però non è un discorso di capacità comunicativa. Perché con la capacità comunicativa rischi. Fammi finire. Non mi avrete mai su questo qua. Io difenderò il modo di impostare la trasmissione. Nessuno, non è che uno non si vaccina perché l'ha detto Red Ronnie. Esatto. Ascolta, senti. A me non verrebbe mai in mente. Le persone che non vaccinano, ci sono anche quelle che si fanno anche un po' plagiare da qualcuno, mentre invece sono persone. Ma questo succede parlano. Comunque a prescindere da una comparsata televisiva. No, c'è gente che si informa su internet, sente, legge Red Ronnie o altri, magari si fa convincere a non vaccinare il bambino. Ma ci sono sempre state queste cose. Non è che un'apparizione di un quarto d'ora virus cambia le cose, ragazzi. Dai, del vaccino ne parlano medici e persone informate informano la gente. Questa idea per cui allora della Costituzione parlano solo i costituzionalisti, della politica parlano solo gli addetti ai lavori, è una stronzata. Red Ronnie è uno che si informa, ovviamente ha le sue idee che noi contestiamo, abbiamo contestato spesso sui vaccini e su altre cose, sul veganesimo, ma ha tutto il diritto di andare. Un contraddittorio, ma c'era un contraddittorio più o meno, dai, su. Ma perché vogliamo dire come vanno fatte le trasmissioni? Ma ognuno fa la trasmissione come vuole. La trasmissione. Non mi pare che sia stato un inno a non vaccinarsi. Non credo che ci sarà un calo di vaccinazioni dopo l'intervento di Red Ronnie. Dai, su. Vabbè, comunque questa è la mia idea. Ciao, grazie Francesco. Fabio, Roma, vai. Sì, ciao Giuseppe, dimmi. Lorenzo. Io ciao, anch'io sono, diciamo, contrario alla tua opinione rispetto alla questione dei vaccini. Ti porto il fatto che la questione di Red Ronnie, la polemica, sì, è uscita fuori, sì. Il web, diciamo, che anticipa sempre un pochino, no, i mezzi professionali. Allora? È uscita su internet la dichiarazione di questo medico che era stato invitato come contraddittorio. Sì, sì, ha fatto 5 milioni di visualizzazioni. Ci abbiamo parlato noi questa mattina con questo qua. Lui è convinto che Red Ronnie non sia titolato a parlare di vaccino, comunque lui non voleva, se fosse stato informato della presenza di Red Ronnie non sarebbe andato. Quello anche che diceva lui era, dice, non è che se facciamo un dibattito sull'immigrazione invitiamo quelli che dicono che i negri sono inferiori e vanno picchiati, dice, nel senso il sì, però ragazzi, sì, d'accordo, però bisogna tutto ridurre. Io non sono d'accordo con quello che dice questo medico qua, cioè lo rispetto naturalmente, ma non sono d'accordo. Uno si deve confrontare anche con persone che potrebbero essere non informate come i professori, come i medici, e ribattere, magari dire lei non sa niente eccetera. Il confronto va sempre fatto. Però la questione è un po' pericolosa, Giuseppe, perché comunque sì, ho capito, ma non è un scusami Fabio, se altrimenti ci pare, chi ha contestato la presenza di Red Ronnie e della Brigliadori, cioè immagina un mondo in cui tutte le discussioni si possano risolvere in una sorta di simposio scientifico-tecnico. No. Non è così. Ci sono le trasmissioni divulgative dove uno può tranquillamente dire la sua. Anche no, però sarebbe interessante se oltre a, come si chiama lì, a Red Ronnie ci fosse stato un medico c'era contrario questo, ma vaccini. C'era... No, contrario. Ma ho capito. Ma chi se ne frega? No, ma che vuoi dire? A Porro come fare la trasmissione pure te? No, dai. Tutt'altro. Allora, se ne frega. Massimo dopodiché da Fermo, io sono tra quelli che non cambia opinione se parla Red Ronnie. Appunto, Massimo da Fermo, dai. Massimo? Pronto, eccomi. Dimmi Massimo, dimmi. Allora, meglio tardi che mai, Peppe. Dai, dimmi Massimo, dove devi dire? Volevo parlare della scorreggia. Purtroppo non mi avete dato spazio e tempo. Come quando dice, era caldo. Voleva parlare della scorreggia. Perché vuoi parlare della scorreggia, caro Massimo? Perché? Perché no, ma è interessante. Perché ti chiami per parlare della scorreggia? Perché? Perché ho da dire cose uniche e irripetibili che nessuno ha detto. E nessuno, tra l'altro, il mio nome d'arte quando parlo in una radio privata, radio auto qui locale. Quindi, ma questo è interessante. Allora, tu praticamente molto interessante. Quali sarebbero le cose interessanti che nessuno dice su questo tema, cioè dire la scorreggia? Intanto guarda, vengo subito alle conclusioni. Bisogna essere delle conclusioni, mica un convegno. Aspetta. Le pari opportunità in materia di sesso, di rapporti di coppia, le pari opportunità hanno rotto i coglioni. Sono una partita a carte truccate. Per esempio, sulla scorreggia, io do un diritto speciale alla donna, alla mia amata Simona, quando io lecco la figa. Vabbè, Massimo, siamo calmi. Sono le 18:55. Non iniziamo. Mamma così. Mia, ma tu ti se rendi conto? Mi scrive un autorevole dirigente di interessante il tema sollevato dal radioascoltatore. Ma sicuramente te lo sta scrivendo. Ma secondo me dirigente. È interessato, assolutamente. È assolutamente no, interessante. È molto ironico. Ma chi se ne frega di quello che scrive il dirigente? Me ne se dovesse la verità, me ne sbatto i coglioni di quello che scrive il dirigente. Me ne sbatto i coglioni. Massimo, se hai piacere di parlare con noi di questo tema, più avanti ne possiamo parlare tranquillamente. Cercando, insomma, non dico di... perché... A dopo, dai. La Zanzara. Cruciani, fammi capire. Se tua figlia ti viene a dire che vuole fare la cantante, la mandi a fanculo. Se invece ti viene a dire che vuole fare la puttana, beh, figlia mia, fai come vuoi. Beh, siamo al top, eh. Siamo al top. Ovviamente io non ho detto così. Ovviamente non ho detto così. Lo ripeto per l'ennesima ma volta. Ma se hanno capito così, chissà come mai hanno capito così, chissà perché. Però direi a questo punto di partire con Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Giovanna Prato, vai. Luciano, io se t'avessi avuto tra le mani prima, quando si ha detto in quel modo dei musicisti, t'avrei ammazzato i botte. Ma che ho allora, fatto, te Giovanna? Non capisci niente, sei un emerito ignorante, sì, capone, sì. Di musica non ci capisci un accidente. Ma quello può darsi, ma che c'entra questo? Scusami, no, Giovanna. C'entra, perché... Non fare l'aterosclerotica. Ascolta, non fare Rai, Mediaset e la 7, siete tutti appecoronati a Renzi. La cultura musicale nell'Italia, in Italia. Ma che c'entra? Italia. Ma che te sei rincoglionita, Giovanna? Ma che te sei rincoglionita? Ma che sei rincoglionita? Ma che c'è, ti funziona ancora il cervello o no? No, a me funziona il cervello, ma a te non ti ma funziona. Mi sa di no, ma quanti anni hai, Giovanna? Mi sa che funziona il cervello non ti funziona più. C'è qualche rodella che non funziona. No, nella scuola italiana la cultura l'età, musicale l'età ti ha fatto eliminata. Ma chi se ne frega? L'età ti ha fatto sbroccare l'età. Ma il musicista è un lavoro, è una professione. Ma quale lavoro? È un tempo libero il musicista. Ma poi tempo libero? Può diventare, una... è in Italia che si pensa così, perché siate ignoranti, siamo ignoranti in Italia. Tu che lavoro hai fatto? Perché tanto ormai non lavori più, te sei in pensione, no? No, pallino, io ti voglio solo pallino, dire, ma te giusto. Fai il giornalista, è una professione, sì o no? Sei te che non mi dai la possibilità di lavorare, imbecille. Perché come sei al meccanico tu me lo dai il lavoro e alla musicista no? Perché? Ma imbecille a chi? A chi? Imbecille a chi? A quelli che pensano come te, cioè a te in questo momento. Sto parlando con te, con ma che parlo, scusa. Io più o nono. Ho pallino. Ho pallino. Giovanna, scusami un attimo. Ma da Prato, ha ragione. No, ma non ha ragione, ha torto su tutti i fronti. No, perfettamente per ragione. Dio. Padre. Pallino in Toscana è straordinario, vuol dire proprio cretino, vuol dire proprio disgraziato. Ah, bello molto proprio bello. Bene. Come no? Me piace molto il toscano, il pallino piace molto, perché è proprio come dire miserello, poro idiota, poro cretino, pallino, come dire. Capito bene, bravo. Lo so, conosco il toscano. Allora, ma vaffanculo allora, Giovanna, scusa. No, ma ti ho proprio detto una cosa ma bella, allora vai pallino. A fare in culo, come scusami. Dire, sei un povero cretinello, ma appunto, uno ma allora io la mando a fare in culo, sciocco, non l'avevo capito, pallino mi sembrava una cosa leggera, invece no, che leggera. In Toscana è devi imparare a capire le cose. Giovanna, io non ho capito una cosa. Nella vita tu che stracazzo hai fatto? Ma poveretto, ma cosa perché? Hai fatto nella vita? sono affari che non no, ti riguardano. Dimmi cosa hai fatto. Si sta parlando di mestieri. Si sta parlando di mestieri. Parla, dimmi cosa hai fatto nella vita. Dimmi. No, sono cose che ti riguardano. Avrei fatto la parassita di tuo marito. La parassita di tuo marito avrei fatto. No, palle d'oro. Io palle ho sempre d'oro. Lavorato. Dai, su. Maremma diavola. Ti piglierà a calci, guarda. Ma se non incassano i teatri, che chiudano, no? E non rompeteci coglione a noi con i soldi di Stato, dai, su. Va, va, va, va, diavolo, vai. Se tu li pigli i soldi di Stato, sta, non io non li piglio, sta gallinaccia maledetta, dai, su. Pronto. Sei una gallinaccia maledetta. Altrettanto. Sei una gallinaccia. Sei una gallinaccia maledetta, vecchia, vecchia, maledetta gallinaccia. Che bla, vabbè, che be, che fa ci. Come posso mi perde con un pinco pallino qualsiasi, via, via, via. Ma che fare, dai, su. Tipi da Zanzara. Grande scontro con Giovanna la settimana scorsa sulla questione pallino dei musicisti. Andiamo a Torino, Franco, vai Franco. Franco? Franco? Pronto. Vai, dimmi, dimmi Franco, dimmi. Allora, io telefono di rado, però telefono quando mi fa incazzare. Io faccio il medico. Sì. In questo caso telefono perché sostenere il fatto che le vaccinazioni, di vaccinazioni si possano occupare anche quelli che non sono esperti, in questo caso è una grande stronzata. Cioè, è come se un comico potesse andare a un convegno di astrofisica e dire quello che ne pensa. Allora, le vaccinazioni sono fondamentali. Sì. Perché ma io vaccina, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Allora, se si vaccina, se il tasso di vaccinazione scende sotto un certo limite, è un pericolo. Ritornano malattie che erano dimenticate. No, ma Franco, io sono d'accordo con te. No, ma io voglio dire, consentire a qualcuno che non ha nessuna voce in capitolo di farsi sentire da milioni di persone avallando il fatto che ognuno può dire quello che vuole è una grande frontata. No, a parte che non è così. A parte nel momento in cui dice ma sì, ognuno può dire quello che gli pare. No, ma non se è questo una cosa del genere, che c'è tanta gente Franco, ignorante che Franco, fa sentire questo. Posso capire la tua posizione, però io ho un'altra posizione perché bisogna distinguere i due piani. Allora, se a un convegno del Ministero della Salute fosse invitato il signor Red Ronnie o la signora Brigliadori, posso capire. Dice, invitano due che non sanno assolutamente nulla. Trattasi semplicemente di un talk show televisivo. Sì, certo, sulla RAI o su quello che vuoi. Un talk show televisivo dove c'era una opinione ovviamente a favore dei vaccini. Credo che lo stesso Porro sia a favore dei vaccini. Per cui di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una parte di una trasmissione televisiva in cui si invitano due persone che hanno delle idee molto forti, molto chiare contro i vaccini, contro le vaccinazioni, in alcuni casi anche idee bislacche, secondo me. Ecco. Ma non si può dargli la parola. Ma non è vero, ma questo è fascismo, ma è una follia questa roba. No, non è fascismo, perché ti dico una cosa, che il Ministero della Salute stava studiando la possibilità di radiare i medici e i pediatri che si fossero espressi contro le vaccinazioni. Quindi, ma questo è un altro discorso. Ma no, non è un altro discorso. Se uno ti fa una radiazione, cioè ti elimina... Sì, ma cosa c'entra questo? Scusa, non ho capito. Mica erano medici quelli là, allora, tra l'altro. E non erano medici, sono divulgatori, sono appassionati di questa materia, sono appassionati di queste cose, che vengono invitati in una trasmissione a fare un pezzetto di trasmissione, punto e basta. Ragazzi, ma di che parliamo? Dai, ma su. La gente non deve ascoltare... Cioè, ma la gente ormai va su internet, fa i vaccini e ascolta. Ti leggi mille cose diverse, anche le più folli sui vaccini, per cui di che stai parlando? Su internet è un conto, ma servizio pubblico ma non deve fare queste cose. Servizio pubblico, no, vabbè Franco, no. Ma io lo capisco, capisco la tua posizione, non sono d'accordo, permettimi di non essere d'accordo. Ma tua figlia la fai vaccinare? Certo, assolutamente sì, ma che c'entra questo il punto? No, c'entra. Io però non è che considero tu... dei pazzi quelli che non vaccinano. Allora, beh, tu sei medico, che tipo di medico sei, Franco? Io sono uno specialista ospedaliero, gastroenterologo. Secondo te dovrebbero essere obbligatorie, cioè nel senso sono obbligatorie naturalmente. Sono però obbligatorie. Sono uno obbligatorie. Può anche non vaccinare, come sai, no? Ma certo che non può, però il parere dato su un organo di informazione così importante come la televisione e consentire a determinate persone di esprimerlo liberamente come se fosse il controcanto di un esperto. Questo è una follia, non deve passare questo messaggio. Allora dice un guitto che dice qualcosa e va bene il guitto, ma non gli si può dare la stessa dignità rispetto ma non ha la stessa dignità. Ha ragione, c'è dai. Un problema di salute pubblica, cioè di interesse generale. Ma non ha non la stessa dignità, è un pezzo di trasmissione, ragazzi, su, ma non esageriamo. Allora dovremmo chiudere anche la Zanzara, cioè di che parere? Quella dovrebbe essere chiusa da tempo. Red Ronnie è stato ospite più volte, però, dai, è stato sì. ospite più volte qui però a parlare anche di queste ragione, cose. Ha ragione sul fatto che lì è un tema di salute pubblica. Vabbè, ma ho cioè, capito, ma anche qui quando se ne parla qui, dai. Pinco, pallo, cuculù, ma cioè qui, oh ragazzi, ma parliamo di vaccini. Michele di d'Ancona, pubblica. Grazie Franco. Michele Ancona, Bologna, Michele Bologna. Pronto? Dimmi. Pronto. Beh, dottor Cruciani, buonasera. Dimmi, buonasera, vai Michele, vai questo buonasera che non sopporto, dai. Ascolti, io ho chiamato perché capisco le necessità della trasmissione. Perché però lei mi attacca sempre il Papa? Ma io non ho fatto attaccato, in questo caso oggi ho detto che ha detto una cosa giusta. Cruciani è una persona intelligente, allora... e voglio mantenere la trasmissione su livelli di educazione infinita. Beh, insomma, non troppo. Perché no. Io quando sento dire, per esempio, un paio di mesi fa ha parlato delle benedizioni nelle case che sono una puttanata. Lei bisogna che si renda conto che c'è anche della gente che ha una certa sensibilità. E vabbè, quindi, ma pazienza, io dico la mia sul Papa. Oggi, per esempio, il Papa che si è crucianizzato sugli animali mi piace. Cioè, il Papa che si è crucianizzato sugli animali è meraviglioso. Lo trovo bellissimo il Papa che ha detto sugli animali. Facciamolo risentire questa cosa del Papa. Sono molto contento che il capo di Stato, che è il capo di uno Stato straniero, come il Papa, perché è il capo di uno Stato straniero, si sia reincarnato nel sottoscritto. Beh, questo non credo, devo dire la verità, che sono particolarmente contento di questa cosa qui. Sentiamo di nuovo il Papa. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina. No. La Zanzara. Cruciani, Giovanna da Prato ti ha fatto capire che sei un coglione, coglionazzo! Allora, abbiamo già pronto un ospite, caro Parenzo, però andiamo a Milano. Michelangelo, vai, Michelangelo. Caro Cruciani, dimmi. Ti apprezzo, come lasciamo perdere. Arriviamo al punto. Tu non puoi dire una cosa di questo genere, tipo di virus, perché allora possiamo evitare anche il mal di Otelma, che dirà sempre quelle cose giuste o sbagliate, ma comunque c'è gente che lo guarda, e tu stai parlando della sanità, della salute delle persone. Tu non puoi dire una cosa di questo genere, perché va della tua del fatto che no, Michelangelo, una persona, no, mi dispiace, purtroppo in una trasmissione lo invitiamo, ma in cosa c'entra, se ha delle cose interessanti, se uno pensa per favore, stiamo parlando della salute, ma cosa c'entra, ma quello è un talk show, stiamo parlando della salute, sì, e tu non puoi dire una cosa di questo genere. Ma cosa non posso dire? Cosa non può? Ma cosa? Perché di che parli? Ma allora possiamo invitare da chiunque. Ma no, infatti talk show invitano chiunque a parlare, non si capisce. Ma non stiamo parlando di diritto pubblico, stiamo parlando di salute della gente, della vita. Ma cosa c'entra? Ogni trasmissione risponde. Io ti apprezzo, ma sei una guarda, tu non puoi. Michelangelo, è da impazzire una roba del genere. Impazzire, impazzisci pure, per carità, c'è il diritto di impazzire, però. No, io ma lascia perdere, ma Michelangelo, ma puoi, Michelangelo. Ma chiamiamo il Mago Telma allora. Ma cosa c'entra? Ma sono persone tutto. Ma non è vero che è la stessa ma cosa. Come no? Ci sono dei negazionisti dei vaccini, ci sono dei negazionisti dei vaccini. Ma te l'ha detto adesso un dottore, ti ha detto che allora? I vaccini è per legge che bisogna vaccinare le persone. Sì, alcuni sì, altri no, però ci sono persone che ma non vaccinano lo stesso. Tu sentire droni che io ho pensato allora? quando 20 anni fa questo. Faceva le sue trasmissioni di DJ. Ma non ho capito, qual è il problema di sentire l'opinione di Red Ronnie se c'è qualcuno? Perché c'è il pubblico e tu sai benissimo che il pubblico ascolta. E allora se vuole e mi dice anche che internet è la fonte di queste cose? Ma non ho capito. Non un medico e non la medicina. Michelangelo, scusami un attimo. Ma dai, scusa. A parte che Red Ronnie, come sai, esistono anche dei medici negazionisti o comunque delle persone che negano i vaccini, che citano studi, eccetera, eccetera, e cosa che Red Ronnie conosce. Ma il punto non è questo, è la libertà, è la libertà delle persone di poter andare in televisione a dire la propria opinione. Cosa che tu stai negando. E allora quelli dell'11 settembre? Quei negazionisti dell'11 settembre? Quelli che hanno negato l'11 settembre? Ma cosa c'entra? Dai, quello non c'è, ma perché è la salute, la vita. Ma cosa vuol persone dire? Ma lascia perdere, ma non è che cambiano. Ma come lascio perdere? Ma non è che bambini improvvisamente c'è la diminuzione dei vaccinati perché Red Ronnie va in televisione? Sì, ma ragazzi, certo. Su, dai. Ma no, invece non è vero. Allora, ma voi volete dare la mordacchia a Red Ronnie? Volete impedire a Red Ronnie di parlare? I vaccini sono diminuiti. Ma sì, ma d'accordo, io sono d'accordo. E anche per questa gente sono d'accordo con te. Li metterei obbligatori allora, per sempre obbligatori, e deve essere obbligatorio anche far parlare Red Ronnie, cioè ma facoltativo favore, in realtà parli Red Ronnie e si rendono obbligatori i vaccini, parli Red Ronnie. Michelangelo, smettila. Sei cioè, una persona intelligente, ma guarda veramente. Ma cosa cazzo c'entra? L'intelligenza è dalla. Ma non ammetti di aver sbagliato. E non ma cosa ho sbagliato? Che cosa? Sbagliato. Che cosa? Come ho sbagliato io? Io è una vita che faccio parlare Red Ronnie su qualsiasi cosa. È una vita che lo faccio parlare. Ma non puoi far parlare la chiunque per cose così importanti. Ma che c'entra le cose importanti? Perché l'11 settembre non è importante. Certo che lo difendo, certo, assolutamente. Bravo. Ma io non so, ma veramente, ma la testa dove ce l'hai tu alle volte? Nel culo me la sono messa, ciao. Ciao. Matteo Salvini è con noi, buonasera. Buonasera, madonna, ma come urlate, sono mezzo influenzato, mi facevate... Vabbè ragazzi, si battaglia. Allora, mica... ma io non ho capito una cosa, non c'è diritto da parte di Red Ronnie o di chiunque di parlare dei vaccini, ma di che stiamo parlando? Tu li fai vaccinare i tuoi figli? Hai vaccinati i tuoi figli? Sì, si sono vaccinati. Meno male. Sono assolutamente vaccinati anche per tutela degli altri bimbi che ci sono in classe. Vabbè, ma è normale, ma anch'io, ma non stiamo parlando da nulla. Io li ho vaccinati anche alla Lega. Sì, ma io però rispetto quelli che sostengono il contrario. Se ne sentono di tutti i colori, quindi è giusto che ognuno dica la sua, ci mancherebbe. Attaccano Porro, a me non mi interessa che non siano di Porro o qualcun altro, perché ha portato in trasmissione a parlare Red Ronnie. Cioè, ma di che parliamo, ragazzi? Su, è un pezzo di trasmissione. Adesso ci sarà improvvisamente la diminuzione dei bambini. Ma dai, su, che si vaccinano, su, dai. Ma non si può negare il diritto di parola alle persone. Perché il raffreddore? Che è successo? Non lo so, capita agli esseri umani di prendere il raffreddore. Ieri ho fatto 8 incontri. Cosa è accaduto? In provincia di Bergamo, su, giù, dentro, fuori, baci, abbracci. No, perché mi dicono che vai spesso in macchina, poi questo te lo chiedo. Hai beccato anche una multa che non vuoi pagare. Che succede qua con la multa? No, ma guarda, l'ho letto sul giornale. Come l'hai letto sul giornale, scusa? Della multa a cui ho fatto ricorso. Sì, hai fatto ricorso perché andavi... Saluti e baci, paga la multa e taci. Quanti automobilisti ci stanno ascoltando in questo momento dal viale Enrico Fermi di Milano o dal via all'uscita dell'autostrada, quei due autovelox lì, quelli sull'Enrico Fermi e quelli all'uscita della Milano. Stiamo parlando di Milano. Sì, a 70 all'ora, strade di 3, 4 o 5 corsie, andrebbero... sono una truffa. Io l'ho chiesto a Parisi, tu diventi sindaco, i primi due autovelox che tolgo sono quelli lì, perché metterli davanti a un asilo, a un ospedale... Vabbè, d'accordo, però ci sono. L'autovelox sulle superstrade mi sembra demenziale. No, ma d'accordo, quello può darsi anche che tu abbia ragione, ma il problema fondamentale è un altro. Tu andavi a 87 e il limite era 70. Hai beccato, credo, 165 euro. Guidavo io, non lo so. Il tuo autista, che peraltro è anche candidato a Milano alle cose. Sì, sì, sì. Ma perché avete candidato il tuo autista? Sembra una cosa un po'... Io le liste. Come non le fai tu? Adesso mi occupo delle liste, con tutto rispetto. Ma scusa, della Lega? Chi le fa le liste della Lega, scusa? No, ho capito, non so. Ma chi le fa, Renzi? No, a Milano, a Grosseto, a Novara. Ho capito, ma a Milano... Scusami, la tua città, Matteo, l'avrai candidato tu il tuo autista, no? No, no, non l'ho candidato io, l'ho scoperto sul giornale. Ma non è possibile. Allora, ti devo dire una palla. Ma no, ma mi sembra un po' bizzarro che a Milano... Le scelte se fa delle scelte le fa. Poi è un militante da 25 anni. Ma no, ma io non dico niente, però. Io non dico niente, per carità. Io ti... l'autista di Togliatti non è mai stato candidato. L'autista di Palmiro Togliatti. Cosa? Dice che l'autista di Togliatti non è mai stato candidato. Palmiro Togliatti non è mai stato. Ma avete chiamato per parlare delle liste della Lega? Sono contento. No, parliamo, ma che c'è? Noi parliamo a medici, degli operai. Oggi sono stato a visitare due depositi. No, va bene, però scusami. Due depositi di armi? Che conosco, che stimo, Claudio Morgillo, lo sì, saluto, spero che prenda. No, però scusami un attimo, è vero che deve essere votato l'autista, però mi pare bizzarro che tu non lo sappia. Al bello delle preferenze, se prende le preferenze viene eletto, se non prende le preferenze non viene eletto. Allora, questo tizio che si chiama Locatelli, senza fare campagna elettorale, nessuno ce ne frega niente, però questo tizio qua è il tuo autista, non è possibile che tu non sappia che è candidato. Almeno cioè, avete scambiato due parole. Te, io conosco tutte le liste. Ma che quella di Milano, sono... della Lega. Ha detto lui poi. Ma io quando dico vabbè, a maggior comunque ragione nella mia città non metto Besco sulle candidature. Vabbè, non lo sapevi, l'hai preso dai giornali. Vabbè, perché? Esatto. Allora, 87, cioè 87 all'ora, 165 di euro. Perché non paghi questa multa? Non capisco perché non la paghi. Quell'autovelox è una truffa. Ma non lo vuoi pagare dunque? Quell'autovelox è una truffa. No, ho fatto ricorso a quello come l'ho fatto in passato su altre truffe. Ma ricorso, scusa, qua leggo che tu fai ricorso per motivi istituzionali, rischio sicurezza, ruolo istituzionale. No. Questa. Come no? Allora, c'è scritto nel ricorso. L'ho fatto io il ricorso, lo fa chi guida il ricorso. Detto questo, quell'autovelox è palesemente una truffa e ci sono migliaia di milanesi, associazioni di consumatori. Vabbè, ma da quello che per fortuna toglietelo quando avrete l'avevo in mano pure impacchettato una volta, non so se mi hanno denunciato o meno, ma quando avrete in mano il comune di Milano toglierete e quello vicino al Pala Sharp sono i vabbè, primi due. Vabbè, sempre Milano, se parliamo solo a fare cassa. Vabbè, servono solo a fare cassa. Allora, però qua nel ricorso c'è scritto se becco una multa giusta la pago. Multa giusta? Ma non è che io posso decidere quella che è giusta e quella sbagliata. Io ho beccato l'altro giorno. No, sì. Cioè c'è il diritto da parte degli automobilisti a chiunque. Non posso fare obiezione di coscienza a una legge sbagliata. No, ma questo è interessante. Allora tu ci stai dicendo praticamente che tutti gli automobilisti multati pago la multa. Se mi beccano che passo col rosso pago la multa. A quelli che parcheggiano l'eccesso di velocità in un cavalcavia oltre la multa gli taglierei le gomme. L'autovelox messo lì solo per far casse, non per tutelare l'incolumità dei cittadini, è una truffa. Dunque gli italiani in tutta Italia, anche gli altri italiani possono fare. Fortunatamente ci sono migliaia di italiani che fanno ricorso contro queste multe truffa. Gli autovelox taranti, ma ho capito, però arancione che dura solo 3 secondi per fottere. No, ma quello è un altro discorso, i cittadini però si ribelli. Quello è un altro discorso. Qui stiamo parlando di una lasciamo perdere Milano, perché noi parliamo in tutta Italia, di un posto dove c'è un limite di velocità. Ma questo vale per tutti gli autovelox messi sulle statali. Capito, ma esistono questi autovelox, se uno potesse ribellarsi dicendo non è giusto, non è giusto, ma sbagliati. A parte che nel ricorso che avete fatto, sì, certo, ce ne sono migliaia, anzi milioni. Però, di italiani, scusami, Matteo, nel ricorso avete addotto altre ragioni. Esatto, nel ricorso non è che c'è scritto che è sbagliato l'autovelox, non l'avrai fatto tu come dici, ma c'è scritto ricopre incarichi istituzionali per ragioni politico-istituzionali, deve presenziare, eccetera, eccetera. Sta dicendo praticamente. Perfetto. E allora voglio che mi boccino il ricorso. Bocciatemi il ricorso e ricorro contro la bocciatura del ricorso. D'altronde i richiedenti asilo possono ricorrere 13 volte contro la bocciatura. Potrò incazzarmi con un autovelox. No, ma tu se poi puoi incazzarti con chi vuoi, però se lo fai tu, uno dice si incazza, perché anche i politici. Io facevo anche da privato cittadino. Sì, ho ma no. Decine di multe pagate, giustamente come tutti gli altri comuni mortali, quelle che ritengo una truffa, e quell'autovelox è una truffa, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, come altri autovelox piazzati solo per far cassa in giro per l'Italia. Ma questo può darsi che ci siano autovelox piazzati per far cassa. Faccio ricorso tutta la vita, anche se faccio il capito, ma nel ricorso c'è scritto che tu lo fai perché andavi forte per ragioni politico istituzionali, perché dovevi presenziare. L'hanno fatto male allora sto ricorso. Vabbè, chiederò a chi fa ricorso. Capito, perché sembra l'impunità. No, sembra l'impunità l'impunità dei politici che vanno veloci. Guarda, ti porto tutti i ricorsi che ho fatto anche quando ero assolutamente nessuno, non che adesso sia qualcuno. Però se c'è una battaglia in cui credo, io la faccio fino. Ma guarda, io sono incazzato come te per le multe. Ogni tanto mi arrivano delle multe assurde. Dopodiché, purtroppo, mi sono abituato nel tempo. Prima le stracciavo, poi dopodiché mi arrivano con l'amore, esatto, infatti poi ho cominciato a pagarle. Lascia stare che oggi me l'ho dimenticato, adesso di 26 è diventata 40 euro. Lascia stare adesso, senza sapere né leggere né scrivere, vado e pago. E spesso magari sbaglio, perché dovrei incazzarmi con qualche multa che mi controlla, perché a volte ti arrivano il comune di Milano, ha mandato decine di migliaia di multe. Però scusami, io non faccio il politico. Tu hai scritto qualche giorno politico, ma può arrivare anche un po' risgraziato. Ma lì c'è scritto che per ragioni di sicurezza dovevi correre, capito? su quel ricorso lì. Adesso dobbiamo fare la trasmissione sull'autovelo di aspetta, Arrigo Fermo. Però, vuoi, però no, ma è interessante una cosa che indosso stasera. No, però è una cosa che interessa a tutti, questa roba qua. No, degli... no, ma io invito tutti a fare ricorso. Vabbè, tutti a fare ricorso. L'ho detto al sindaco Parisi. Semplicemente perché c'è 70 Velox, li vado a sradicare io. Allora, però tu qualche giorno il comune ha bisogno di soldi, li faccio. Qualche giorno maniera. Prima avevi scritto: il sindaco di Napoli dice che il suo comune non ha soldi. Se magari facesse pagare le multe stradali, Napoli è la capitale dell'evasione fiscale. Un paio di maniche. Beh, okay, poi sei il primo a non pagare. Chiedono le riscossioni delle multe. Sai che Milano è la città più multata d'Italia? 155 milioni di euro. Allora, se vi... 155 milioni di euro di multe. Allora, se andate molte delle quali giuste, altre delle quali palesemente. Se andate al governo della città, che cosa fate? La moratoria sulle multe? No, fate la moratoria, che ne so. In mezzo alla strada. No, se uno parcheggia in mezzo alla strada, se uno passa col rosso, se uno la piazza lì e se ne va per un quarto d'ora sul passo Carraio, te la prenderei pure a calci la macchina. Però ripeto, ci sono alcuni autovelo che sono una presa in giro al buon senso della gente. Vabbè, Parenzo, che dici? No, va bene, ho capito. Io direi saluti e baci, paga la multa e taci, ma semplicemente non lo perché... vuole pagare, vuole fare ricorso. No, che ma dico semplicemente perché essendo appunto un politico e altrimenti non può fare la battaglia. Guarda su Napoli, che il ricorso su quell'autovelox l'hanno fatto farmacisti. Ma ho capito, ma è diverso, ma tu l'hai fatto per motivi istituzionali, perché andavi veloce, non perché hai sbagliato il calcolo, perché hai sbagliato 87 all'ora su una strada a quattro corsie, dai. Vabbè, ma ragazzi, che ti devo dire? Cioè, è così, mica l'ho deciso io, l'avete messo, magari si scopre che l'avete messo pure voi, io. No, caro. No, magari non l'ha messo Bisabia, l'avete messo voi, No, proprio no. Ma che ripeto, ne sai? L'autovelox davanti all'asilo, davanti all'ospedale, te lo metto anche a 30 all'ora. Ma metterlo a strade a largo scorrimento è anche pericoloso, perché quando uno esce dalla Milano-Bergamo a volte c'è gente che inchioda per passare da 110 a 70. È un complotto. Fermi tutti. Vi voglio bene, adottate un Cruciani, mi raccomando. La Zanzara. Eccoci qui, lunedì, Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, con noi. Non vuole pagare la multa sull'autovelox perché non la vuoi pagare, dici? No, la vabbè, abbiamo la pago con gli interessi, ma se la multa la ritengo una truffa, non ma la è pago. Una truffa, 70, lì c'è scritto 70. Guarda, 80... io ti consiglierei di dare l'incarico a Carlo Taormina. È una truffa, tu apri i telefoni e chiedi quanti vabbè. Lavoratori sono stati martellati. Vabbè, ho capito, ma lo sanno truffa. io ormai... Guarda, bisogna far saltare tutto, lì ha ragione. Spero che abbiano fatto ricorso. Allora, il sindaco, anzi no, Grillo sul sindaco di Londra ha detto si farà saltare in aria. Vedrete se si farà saltare in aria. Hanno detto che è una cazzata, mi sembra. Beh, sì, ma una battuta, dai. Madornale. Cioè. Sì, ma è comico, per carità, teatro. L'avessi detto tu, ti avrebbero arrestato. Detto io, mi avrebbero arrestato. Credo che ti avrebbero arrestato seduta stante. Probabilmente ti avrebbero messo i media inglesi, i giornali inglesi sono molto incazzati su questo. Io vorrei prendere la cittadinanza londinese. Ah, che rompicoglioni con sta storia. Altro paio di maniche è denunciare l'arroganza di certo tipo di Islam, e questa è una preoccupazione che condivido. No, Trump, che cos'è che ha detto? Che i rifugiati, i profughi provocheranno un altro 11 settembre, il signor Trump in America, per cui faccio un tifo sfrenato. No, magari un 11 settembre sperabilmente no, che portino altro scontro sociale, altro caos. Sicuro. Questo sicuramente sì. Dici, No, dico, osservo Milano, Torino, Bologna. Senti, Napoli. Però a proposito di Milano, è una cosa straordinaria avere un sindaco di origine pakistana e musulmano. Tu a lo vorresti a Milano? Sarebbe bellissimo, è un grande segnale di apertura. No, in Italia. Dove uno è nato, a me non interessa. Io ritengo che la religione islamica non sia portatrice di pace. Ma lui è musulmano, per cui ti auguri che non ci sia mai un sindaco islamico. Non me lo auguro assolutamente. Un sindaco islamico in Italia. Senti, a proposito della vicenda dei gay, tu hai detto andrebbe che... fatto un gemellaggio tra Milano e Londra. Tu hai detto che i sindaci della Lega dovrebbero fare obiezioni di coscienza, ma Parisi ha detto che registrerà ste nozze gay a Milano. Come la mettiamo? No, ma io non costringo nessuno a fare niente contro voglia, ci mancherebbe altro. Io ritengo, e lo dico avendo incontrato anche ieri diversi gay nel mio tour bergamasco, quali sono totalmente disinteressati a questa menata sul matrimonio e l'adozione, che essendo questa legge fatta male, cioè ai gay non gliene frega, tu stai dicendo che ai gay in fondo non gliene frega nulla della moda, molti rappresentanti di no, ma secondo te non gliene frega niente, che sia una strumentalizzazione. E non vogliono farsi strumentalizzare, perché l'ultima delle loro preoccupazioni è sposarsi o adottare un bambino. Chiedetelo, aprite i telefoni. Ma no, ma sì, lo so, molti gay non gliene frega niente, non si sposeranno, probabilmente i numeri sono esagerati. Ho capito, ma questa cosa che dice apri i telefoni è forte. Apri i telefoni. Vivono la loro vita serenamente come chiunque altro. Sì, d'accordo, ma voglio dire, signor Parisi, se verrà eletto sindaco di Milano, farà il registro delle coppie gay a Milano, perché così dice la legge, bisogna registrare i matrimoni. Serve un accidente, perché io ho guardato i numeri, si contano sulle dita di due. No, però lo deve fare per forza. Però è una legge dello Stato, deve farlo per forza. Tu dici, ne riparliamo dopo il 20 giugno. Prima bisogna vincere Parisi. Ma che c'entra? Uguale, una legge dello Stato la deve fare per forza, la farà per forza. Ma guarda, ci sono leggi dello Stato che in passato sono state contestate con l'obiezione di coscienza per il suo servizio. Cioè, secondo te un sindaco dovrebbe fare l'obiezione di coscienza? Ho capito, ma che serve? Tanto una legge dello Stato, cioè non... Ma guarda, le leggi si possono anche cambiare. Allora, se qualcuno, se due gay ti chiedessero, i dovuti paragoni che Don Milani combatté contro il servizio civile, alla fine ottennero contro il servizio militare obbligatorio, alla fine, cioè, secondo te bisogna battersi, ottennero il servizio civile. Il mio problema è che questa legge è l'anticamera delle adozioni gay, e io sarò contrario finché campo alle adozioni gay, punto. Allora, mi segnalano l'autovelox al Palasharp, stiamo parlando di Milano, è una vergogna nazionale, un furto ai danni degli automobilisti, lo dice uno che ma certamente non è un salviniano. 1500, d'accordo, cambiatelo, ma non è che non puoi... E non posso tirarlo giù con la motosega, posso solo... Lo faresti? Lo faresti? Perché non lo vai, perché non lo vai ad abbattere? Domani mattina, perché non lo vai ad abbattere? Mi porterebbero via. Preferisco farmi leggere in consiglio comunale e toglierlo democraticamente. No, vai ad abbatterlo, e mentre lo abbatti dici gli immigrati devono rispettare le nostre leggi, e intanto lo abbatti. Un'ultima cosa che è questa, però, un'ultima cosa che è questa, ti voglio chiedere, Matteo, è questa: se due gay ti chiedessero di sposarti, perché tu, vuol dire, in teoria potresti anche farlo, come ufficiale, cioè lo faresti? No, non è così. Non lo farei. Perché non lo faresti? Avrai due amici omosessuali, no? Donne o uomini, no? O non ce n'hai amici? Di più. Oh, capito? Due lesbiche o due froci ti chiedono. Con cui condivido le battaglie. Va bene, tasse, ti chiedono di sposarti. Lo fai o no? No. No. Non lo fai. Aspetta, scusa, per coerenza, se chiedo a un mio sindaco di non farlo, lo faccio io. Ma per non lo faccio. Vabbè. Evidentemente no. Comunque, perché dici? Hai detto questa cosa sulla Raggi e poi l'hai negata. A ballottaggio, se c'è Raggi Giachetti, voti Raggi. No, ma perché? Io ho detto una cosa semplice, che ovviamente ambisco ad arrivare al ballottaggio. Ma quello è chiaro, Lega, quello è chiaro. Con la Meloni a Roma, sì, con Parigi a Milano. Dove non ci fosse la Lega al ballottaggio, non voto per l'uomo del PD neanche sotto tortura. E dunque voti la Raggi, Giachetti, voti Raggi. Se al ballottaggio a Roma non ci fosse la Meloni, e io penso invece che ci sarà, va bene, ma se non ci fosse, voti Raggi? Non voto sicuramente per il PD. E dunque voti Raggi? Se fosse 5 Stelle, voterei per i 5 Stelle. Va bene. Detto una roba così no, ma l'avevi già detto da noi 2 mesi fa. Ciao. Adesso, per colpa della zanzara, ascolto solo Cruciani e Parenzo. Parenzo e Cruciani. Che schifo. La zanzara. Mi hai rotto tu i tuoi culatoni di merda. Che matrimonio gay, che matrimonio gay, vayan a cagar tutti i culatoni. Allora, ragazzi, io però non vorrei tornare sempre sulle stesse persone, Parenzo. La Celentano, la figlia di Celentano, Rosita Celentano, non ce la posso fare, perché sembra che siamo fissati, no? Sembra che siamo fissati. Sì, sembra, infatti, sembra. Sì, adesso tu darai la colpa a me, sei fissato, parli sempre della Celentano. No, io non, per ora non do. Però io alcune cose non le posso far passare così, come se nulla fosse. Non le posso far passare, non le posso far passare. Senti che cosa ha detto sui cani che uccidono per negligenza e non per cattiveria, non ce la faccio. Poi ha detto che... Prima sentiamo questo, dai, ti prego. Io mi sento di dire che sulla domanda perché i cani uccidono ancora, si sa, è per una negligenza degli adulti, non è per una cattiveria gratuita dell'animale. Capisci, sì. Cioè, noi siamo i cattivi, gli animali in realtà quando uccidono è per la negligenza degli adulti. Ma sai, vecchio mio, quella lì è la trasmissione che vede il... No, ma non è una trasmissione, è un'intervista, non mi ricordo. No, ma sì, ho capito il punto di vista dell'animale, ma se è una stronzata, al di là che sia il punto di vista dell'animale. Noi ci vediamo sempre dal punto di vista dell'uomo, mettiamoci anche dal punto di vista dell'animale. No, ma ti ci metti tu dal punto di vista, vai a quattro zampe a casa tua a fare quattro zampe. Mettiti a quattro zampe. Una volta lei si è messa a quattro zampe come i gatti, come i cani, ha passato un'intera giornata così da Celentano a quattro zampe per il salone. Sì. Dai, perché voleva abituarsi alla vita di un cane e di un animale. È interessante, ti giuro. Però questo. Dai, su. Allora, sempre la signora Centani, in un'intervista al quotidiano Il Tempo, dice: l'uomo è l'unico essere vivente autodistruttivo che uccide per pura cattiveria e malvagità. Gli animali uccidono per istinto di sopravvivenza. Sì, questo è vero. Ma chi l'ha detto? Sono cattivi anche gli animali, ma non dire stronzate, ma non è vero. Che cattivi sono quelli matti. Allora, per assurdo, ma non per natura, se l'uomo sparisse dalla faccia della terra, gli animali continuerebbero ad esistere. Adesso l'altra cazzata, ma chi se ne frega poi? Cioè, se l'uomo sparisce, resta gli animali, ma che cazzo ci frega a noi? E noi cosa facciamo? Ma che importanza ha? Cioè, è come dire, se spariscono i bambini, non lo so, è una tale. No, ma anche lei non fa più la trasmissione poi. Sì, ma non è interessante questa cosa, no, qua. Cioè, non è che se uno dice, per assurdo, se l'uomo sparisse dalla faccia della terra, gli animali continuerebbero a vivere, a esistere. Se invece spariscono le api, il mondo finirebbe. Che è un'altra di quelle panzane che vengono dette. Le api sono importanti, per carità, ma è una panzana. Non è vero che se spariscono le api sparisce il genere umano, sparisce il mondo. Non è vero! Guido da Viterbo, vai! Ragazzi, come state? È tutto ok? Beh, più o meno, ce la capiamo. Sì. No, niente, io vi volevo far notare una cosa, che tutti quelli che telefonano, che sono incazzati per il vaccino, che non fa il vaccino, eccetera, effettivamente sembra che hanno effetti collaterali, perché lo fanno, sono tutti incazzati, strillano, urlano. Chi sono incazzati? Io non l'ho fatto mai, non l'hanno fatto mai i miei figli, non l'hanno fatto male, mai la mia famiglia. Male? Benissimo. Non ho capito. Male. Adesso stai scherzando dicendo che quelli che fanno i vaccini sono tutti incazzati, oppure sì, che il 90% dei bambini ti hanno telefonato, stridono, urlano, incazzati, dico probabilmente si fanno dei vaccini e questi sono gli effetti collaterali. Vabbè, ma questa è una puttanata, dai, tu non l'hai fatti no, neanche i tuoi figli. No, non l'ho mai fatti. È chiaro che se c'è un'epidemia potente, che ti devo dire, tipo peste bubbonica, colera, eccetera eccetera, lo faccio. Però secondo me sono tutte cose che provengono dalle multinazionali farmaceutiche per far spendere i soldi, i denari. Senti, l'argomento è complesso. Qui si discuteva solo di una cosa. Adesso non voglio entrare nella cosa vaccini sì, vaccini no. Io voglio entrare solo in una discussione. Il signor Porro ha tutto il diritto di invitare nella sua trasmissione chi vuole, anche Red Ronnie, anche la Brigliadori, esatto, che dicono, secondo esatto, me, delle stronzate ogni tanto, spesso, esatto, anzi, sui vaccini. E dunque non gli devono rompere i coglioni. Questo è il punto. Giustissimo. Il resto è sono tutte stronzate, dai, su, quelle che si dicono, dai. Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a Milano, Marco, vai. Sì, allora io sono anche d'accordo con te. Il fatto che Porro può dire quel cazzo, cioè può invitare chi vuole. Voi invitate Salvini ogni settimana spacciandolo per politico, quindi voglio dire, lui può invitare. Questa è buona come cosa, che... spacciandolo per politico non è male. Ecco, però fa il politico poi. Però lo fa il politico. Ma questo non, no, questo guarda che la cosa degli autovelox, lui non voleva parlare degli autovelox perché chiaramente non vuole pagare la multa ed è secondo me una follia, sì, un errore. L'autovelox, però gli autovelox adesso gli incidenti lì, perché sì, evidentemente lui non conosce. Adesso noi trasmettiamo in tutta Italia e questa è una cosa che succede in un cavalcavia di Milano, però il discorso può essere esteso a tutta Italia. Ci sono degli autovelox che fanno incazzare, che oggettivamente sono fatti e sono messi apposta lì dai comuni per fare cassa, però basta votare le persone che li cancellino. Cioè, se i politici come Salvini vogliono eliminare quegli autovelox perché dice che fanno fare solo cassa e in realtà rompono i coglioni ai automobilisti e ti arrivano a casa le multe ed è sbagliato fare la multa per 70 perché superi di 15 euro, io pure non ho prese tante quella cavalcavia, però cioè, li cancellino, li tolgano, con chi se la prendono? Non è che sono dei funzionarietti che mettono lì il coso, sono i politici che decidono dove vanno messe queste cose, sì o no? Vabbè, ciao. Allora, si trova in Italia da qualche giorno, non so da quanto. Rocco, buonasera, come stai, amico mio? Come stai, grande? Come andiamo? Sono appena rientrato da Budapest, passando da Cannes. Aspetta che si sente a casa. Aspetta, dove stai? Ha un numero fisso, dove stai? Sono a Roma. No, che si sente poco. Adesso proviamo a richiamarti, fermo là. Luca, Padova, vai. Sì, pronto? Vai, dimmi Luca. Sì, ciao Giuseppe, ciao David. No, ciao caro. Volevo fare solo una semplice considerazione su quello che ha detto il Papa sugli animali. Allora, premetto che non sono animalista, quindi sì. Non ti arrabbi. Chi non ha un animale non può capire l'affetto che una persona può provare. E soprattutto, se i vicini di casa che abbiamo sono come quelli di Napoli, che ti violentano la figlia e te la buttano dal balcone. Ma che paragone piuttosto con quelli di erba, vedi te che. Ma cosa c'entra questa cosa qua? Ma non c'entra nulla, dai, insomma. Forza, non c'entra niente questa roba qui. Il Papa ha detto una cosa corretta, giusta per una volta, io lo dico. Cioè, ha detto una cosa. Spesso abbiamo più attenzione ai nostri animali che magari agli esseri umani. Prima gli esseri umani, dopo gli animali. E poi, se uno si vuole occupare più degli animali, si occupa più degli animali, chi se ne frega. Capito, Luca? Sono d'accordo, però. Anche il Papa. Vabbè, anche il Papa. Che... Rocco, ci sei? Ci sono. Ecco, perfetto, ti sento perfettamente, meno male. Perfetto. Ti sento perfettamente. Che stai facendo a Roma? Ti no, sei non chiedigli cosa fa perché è rischioso la risposta. No, sta andando a una cena. Dove sta? Sono con la mia mogliettina, pronti ad andare a cena con degli amici. Molto bene, bene, molto bene, bene. Una cena normale. Che non zona? È... Che zona? A Roma, relax, che... relax, relax. Ma che ti frega? No, che zona è? Magari basta salutarlo più tardi, dopo centro, Piazza Pulita. Piazza Salutare. Al centro, ristorante San Pietro, ma non sono mai stato. Allora, caro Rocco, magari qui... da solo posso passare a salutarlo più ma tardi. Ma perché dovresti passare adesso? Solo, no, non gliene frega un cazzo, sta con la moglie. Piazza Pulita, che sono a Piazza Pulita stasera dalle 22:50. Ma potrei passare a salutarlo dopo da solo. No, però da solo. Scusa. Da solo. No, passa, lo sai che la moglie di Parenzo è molto carina, sì. Vabbè, adesso, non si infatti perché da solo? Scusa. No, da solo. Vai, presentali tua moglie, presentagli Natalia, ti guarda, prego. Per non saperne leggere né scrivere, io vengo da solo. Poi dopo vediamo. Intanto io vengo. Scusa, da ma solo. quante anche io vengo da solo sempre. Quante? Eccola. Quante eccola. Mogli? Quante? Eccola. Rocco, quante mogli ti sei fatto di persone che conosci, di amici? Ecco. Un sacco, dimmi la verità. Mai una. Ah no, bravo. Non è no, persona amici. D'onore, bravo. No, io bravo. Sono vecchio stampo, man. Man. Ah sì, mai. A me piace mai. Molto perché dice sempre man. Non è mai. Ma si chiama mai, napoletano, mai. Lo chiama man anche napoletano. Certo, veramente. No, incredibile, però. Lo rifiuto anche, ce lo rifiuto. Abbiamo il collegamento presidente Boccia, man. Non mi dire che non hai mai avuto avance da mogli di amici. Figura. Tantissime volte, ma non vuol dire che io abbia accettato, no. Se sono amici, bravo. No. Bravo. Però, diciamo, mogli tantissime, diciamo. Mogli ma tantissime. Sai, c'è, sì, ogni tanto, ma c'è la... C'è la persona invece che adora quello, cioè la progressione di farsi la donna dell'amico suo, non fa parte della mia. Ah, no. Pensavo alla cosa di farsi... Attenzione, avviso ai maschi italiani, signor Siffredi a Roma, blindate in casa le vostre donne, attenzione, messaggio per gli uomini romani. In questi giorni il signor Siffredi è nella capitale, c'è pure... chiudete a chiave le vostre ma donne. Ma sta con la moglie, scusate. Non può fare... Lo stesso. Guarda che più lo vieti e più dai voglia di farlo. Assolutamente. Poi ci sono pure quelli che vogliono che la prova moglie venga scopata dallo così freddi, ma ragazzi, soprattutto però. Quello però ma lui. Che gente è? Quello sì, tantissime. Ma che cosa dite? Per esempio tua moglie, tu non ma avessi piacere parlate? Una scena Natalia ma scopata da Siffredi, ma sei scemo amico, è stupendo, ma non dire neanche ma amico scherzo, mio, ma meraviglioso. Sei scemo globale, ma tu non ti preoccupare, venire viene, ma andate a quel paese tutto e due, ma scusate, ma scusa Davide, immagina una scena, tu che sei sul divanetto, non mi interessa, no, tu che sei su un divanetto lì, il letto di casa. No, non voglio scherzare. E Rocco su Siffredi che si tromba tua moglie. No, beh. Non voglio scherzare. No, ma mi fa ribrezzo. Io quasi pagherei. Ma io quasi tu pagherei. Sei un pervertito schifoso. A me fa schifo pensare solo ti hanno mai pagato. Rocco, ti hanno mai pagato per cose di questo tipo? Sì. Allora, me l'hanno offerto tantissime volte. Una molto divertente è stata con una donna con cui poi abbiamo fatto il film. Si chiama, il film è reale, sì. An American Fans Meet Rocco in Paris. Sì. Ed è praticamente la storia di un uomo che per San Valentino ha permesso alla sua donna di girare con me, perché all'inizio la prima provocazione, la prima mail era vorrebbe far sesso con te qualsiasi somma. Io ho detto no, possiamo fare un film insieme e lui le ha fatto questo regalo, sì. Beh, sarebbe stupendo regalare il San Valentino di Natania, San Valentino di regalare una trombata con così freddi, ma perché io lo farei, ti giuro, lo farei. Tu fai quello che ti pare, ma ormai non le fa più queste cose, non c'ha bisogno di farle, Rocco, ormai è quasi in pensione, cioè quasi in pensione, vero man? Sei quasi in pensione. Senti, però io ti ho chiamato per un motivo, cioè il signor Depardieu che non ha gradito molto, lo so, Gérard Depardieu, che non ha gradito la tua presenza a Cannes, ha detto un'isteria collettiva, sterile, Rocco che fa il tappeto rosso con due o tre donne svestite, ecco. Ma vedi, allora, eccetera. Tutto, io sono un grande fan di Depardieu. Cominciamo così. 30 anni fa abbiamo anche scopato insieme. No, te l'assicuro. Questo è buono. Che vuol dire che avete scopato? Nel 106 lui era un ospite fisso, locale di scambio, trasgressivo vero, sì. Attore completo vero. Sì. L'ho ammirato in tutti i suoi film perché lui si è sempre dato. Cioè avete scopato insieme praticamente? Sì. Cioè la stessa donna, le stesse cose? Sì, le varie donne. Poi lui era un grandissimo frequentatore del 106, che è praticamente il locale di scambio dove io ho cominciato come pornostar, dove ho incontrato Gabriel Puntello. Io ero un emerito ragazzino sconosciuto, lui già era famoso, una quarantina un po' più magro, diciamo, un po' più magro era, molto più magro, eh? Quindi voglio dire, poi allora ti dico, capisco la sua Io non l'avrei fatto al posto suo, perché io c'entro poco a Cannes sicuramente. Molto, ma perché molto se l'hai presa l'ottimo? Non ho capito che cos'è adesso, ecco, De Pardieu. Perché, però la verità è un'altra. Lui è più di 2 mesi che rilascia interviste contro il cinema francese, perché probabilmente non lo fanno lavorare tanto. Io ho degli amici in Francia che mi dicono che lui bevicchia un po' tanto. Beh sì, insomma, sì. Come gli pare. Questo non è mica una novità. Però, a partire da lì, cioè, prendersela con me come capro espiatorio mi sembra un po'... Poi io avevo una bellissima donna che è mia moglie... Ma eri con tua moglie, dici? Lui dice 3 donne, ma dove l'ha vista queste 3 donne? Malvestite, che voglio dire, Rosa, di suo una classe, ma veramente... Cioè, io mi dico a volte, gli dico proprio, ma perché hai scelto me? Una donna come te, di classe... Tua moglie, dolce, sì. Io, parlando di lei. Quindi, secondo me ha detto un po'... Tu sai cos'è? Che a Cannes io sono andato a presentare il mio documentario, Rocco, che probabilmente vedremo a Venezia. Documentario, pure a Venezia. È la storia della mia vita. Però voglio dire, ma perché l'ha detto? Perché è un po' un ubriacone, secondo te? Perché l'ha detto? Non ha manco capito che cazzo. Cioè, ha mai visto sui giornali, perché in Francia sono stato annunciato, quindi ha visto questa cosa qua, gli ha fatto rodere il culo. Però direttamente... non vengo al festival perché mi state sul cazzo, non mi fate lavorare, se la prendi con me che non va, cioè io effettivamente... Vabbè, ma di che è frutto sta roba? Beve troppo, che è? Perché questo è il punto fondamentale, qual è il punto? Secondo me, allora, in Francia dicono che praticamente lavora quasi niente col cinema francese, quindi lui c'è la morte adesso con loro, per però da lì voglio dire, sì... Vabbè, secondo ma perché me ti devi mettere, perché ti devi mettere in mezzo? Cioè, devi mettere in mezzo te, che gli frega? Cioè, tu sei stato... Vabbè, ma figurati, secondo me gli ha dato fastidio, perché io sono partito ieri. Lui è arrivato ieri, siccome c'era molta stampa che parlava di me, e ha detto che cazzo, io sto fuori, non vado neanche al festival e Siffredi, che rappresenta un altro mondo. Sì. Innanzitutto io il tappeto rosso l'ho fatto 15 anni fa. Vabbè, invidioso, insomma, un po' invidioso. Ma che cazzo, invidia di me? Ma che, forse si ricorda di 30 anni fa quando gli ammollavo più di lui, perché anche all'epoca ero forte. Anche, quando? 30 anni fa quando? Nei club di scambisti, dici? Nei club di scambisti. No, dai, scherzo. Lui è un grande. A me ho capito, mi fa ridere questa cosa qua. Perché ma com'era fisicamente? Com'era? Come te? No, non credo che era come te. No, era molto, molto maiale. Ah, molto, molto maiale. Molto, non aveva proprio reverenze per nessuno e si divertiva. Ma super dotato pure? Dotato? Ma lì adesso non lì te lo ricordi? No, vabbè, io guardavo più le donne, però per quanto mi riguarda era, cioè, lo vedevo sempre bello. Vabbè, per te non è chiaro di quelli che guardavano, non è di quelli che guardavano. Per te è chiaro che non è che poi, insomma, gli altri sono anche... Senti, ma nel mondo della cosa, nel mondo dello spettacolo, eccetera eccetera, chi è uno tipo super dotato come te? Cioè, al tuo livello chi c'è? Ma secondo me è Tomba. Vabbè, Tomba l'hai detto anche che... Ma l'ho detto perché lo conosco. Ma anche superdotato, però, dici? Comunque sia, ho conosciuto delle ragazze che ci sono stato e mi hanno detto che veramente messo bene. È molto, molto maschio, quindi... Messo bene, ma quelli proprio messo molto... bene, quelli che hai visto proprio, che ti sei stupito, ha detto, oh, pure lui, pure te così, spettacolo, sport. Si diceva, però non mi ha per sentito dire, però saprei anche tu, chi? Merolone... Vabbè, Merolone si sa. Ermutanda, dicono, Ermutanda, Antonio Zeghina. No, vabbè, Zeghina addirittura, dai. Su. Dicono che Zeghina c'è la bestia, io l'ho visto a Formentera 2-3 anni fa, veramente? Andava in giro nudo, lo faceva vedere in giro, era un po' molto così esibizionista, la quale mi fa, oh, ma neanche tu ti spogli. Aspetta, Zeghina, io sto con mia moglie e i miei figli, sto in vacanza normale, mi chiamano in giro sempre nudo. E lui mi fa, ma qui sono tutti scemi, cazzo, nessuno fa un po' di nudismo. Ho detto, Zeghina, questo lo devi far vedere per forza, insomma. Gli ho detto, vieni a lavorare con me. E lui mi ha detto, solo se mi paghi 1000 euro al centimetro. Ecco, appunto. Alla quale gli ho detto, se funzioni, cioè davanti alla telecamera non è così evidente. No, certo. Senti una cosa, ma è vero che col passare dell'età un po' si rimpicciolisce? Cioè tu, la misura di adesso, quant'è la tua misura di adesso? Sei preoccupato. Ma lo sai quando si rimpicciolisce? Quando? Quando tu non lo utilizzi più, secondo me, perché... Ah, si rattrappisce, sì. Sì. Mi si sono un po' rimpicciolite, se vogliamo, cosa? I testicoli. E come mai? Questo è gravissimo. Quello sì. Ti sono rimpicciolite le palle, cioè questo è interessante. Sì, cioè, questa è l'unica cosa che vedo ogni tanto. E come mai? Sono drammi. Sono drammi veri. Sono problemi ed è giusto discutere. Si sono rimpiccioliti i coglioni di Siffredi. Questo è interessante. Cioè, che sono sempre una specialità. L'unica parte, capito, che vedo forse un po' diversa. Un po' rimpicciolita è quella di Siffredi. Beh, devo dire la verità. Però devo dire che da un lato sono pure contento, perché si dice che quando invecchi i coglioni si allungano. Ah sì sì, si abbassano, perdono di consistenza. Evidentemente sono ancora Lì sul pezzo. Vai a mangiare. Io Parenzo, te la potrei offrire una? No, perché no, non si fa basta, pagare. Per carità. Una scena bellissima. Guarda, Parenzo, facciamo una cenetta in quattro. Dai, ma dai. Accompagnati dal signore con tanto rispetto. Ma allora sì, con tanto rispetto. Sì, ma no, fate una bella cosa di scambismo. Ma quale scambismo? Ma non siamo mica dei. Si parla di sesso libero. Si fa discutere, ma questo. Vabbè, ciao Rocco, a presto. Ciao, ragazzi. Ciao, buona serata a voi. Ciao. Chi è? Ah, Cruciani, tesoro mio, quanto sei bello. La Zanzara. Cruciani, falla finita di fare sempre il coglione. Io ho 40 anni, ho una casa, una macchina, una moto e faccio il musicista. E nessuno mi ha mai regalato un cazzo. Quindi sai una sega te. Ma se uno fa il mantenuto a 50 anni, a te cazzo te ne frega? Se i soldi te li chiede a te, no? Li chiederà suo padre, sarà suo padre a dover dire vai a lavorare deficiente. Non te che devi dire quello lì che cazzo fa il mantenuto fino a 50 anni. Ma tu fai sempre il. Vai sempre a cercare di più. Ma cazzo, se uno ha 47 anni, dopo aver provato, ritengo per quasi tutta la sua vita, la carriera musicale, e ancora non è riuscito a combinare una sega, tant'è che si deve far mantenere la pace, ma allora vuol dire che fa cagare! Non è il suo mestiere! Fateglielo cambiare, vi prego! Fateglielo cambiare! Non se ne può più, basta! Parenzo! Date la svegliata! La Zanzara. Allora, caro Davide, devo dirti una cosa. Che le università se ne escono con delle ricerche incredibili. Questa qua le batte tutte, però. Tutte, le batte tutte. Non ti sorprendere adesso, non ti incazzare. Dici, come mai parliamo di queste cose, eccetera, eccetera. Allora, fermi là. Tu ti scaccoli qualche volta? No, non mi dire di no, perché non ci credo. No, ogni volta devi fare il puritano. Non è possibile che tu non ti scaccoli. Lo facevo, mi hanno insegnato che non si fa. Allora ti insegno come si fa educatamente. Prendi il pugno, adesso non lo puoi vedere perché questa qui è radio. Fai il pugno, fallo come? Fai il pugno. No, della io mano mi scaccolo destra. Io devo dire la verità, mi scaccolo spessissimo. Ti insegno una faccio cosa così, non fai brutte faccio. Figure. Ma no, non me ne frega niente. Io dico quello. Lo so che fai porcherie, fai sempre porcherie. Non ti lavi e fai passare che è normale. E ti fai il bidet, mai dici che è normale. Intervisti trans, è tutto normale. Lo so che per te è tutto normale, ma non è normale scaccolarsi in pubblico. Ma come? No, in pubblico. Né ma a Grato Soglio, né alla Radio 24. Ma non è in pubblico, allora, dai, su, Davide. Fai il pugno, ti insegno una cosa il di pugno, educazione. Che faccio il pugno? Che fai faccio... il pugno con me. Fai il pugno chiuso. Faccio il pugno chiuso. Fai il pugno chiuso. Poi il pugno lo metti sotto il naso, così. Ah, così, sotto e il naso. E lo strofini. Allora, se ti strofini così, ti passa quel fastidioso prurito quando ma si non ferma. È quello. Ma quando c'hai dentro quelle robe lì, verdognole, dentro il naso, che fai? Le prendi e non le tiri per terra? Niente, io faccio così, le prendo, le appallottolo e le tiro per terra. Ma che schifo. Faccio così, faccio una pallina e la tiro per terra. Spesso, devo dire la verità, anche negli uffici, faccio così, anche negli uffici, faccio così, lo sanno, stanno dicendo al di là del vetro, ma lo sanno, stanno dicendo lo sanno di sì, perché sanno perché che sei un maiale, ma sei è normale, è la normalità, è la vita, è la vita, è la normalità, prendi una caccola dal naso e la tiri nel primo posto che capita, ma è una roba che non ha, guarda, qua hanno tolto la telecamera, non posso, ah no, è la telecamera, allora non so se sono in diretta, in diretta online. Ma che cazzo ci frega se sei in diretta online? Allora faccio vedere come si fa. Si prende il pugno, il pugno destro. Ma non ti viene naturale? E con le nocche, le nocche, sai quali sono le nocche delle mani? Si strofina velocemente sotto il naso. A parte che mi segnalano che, a scherzi a parte, tu quando hai fatto lo scherzo là ti scaccolavi alla grande. Sì, lì perché ero in pullman. E perché in pullman no? In pullman, nel pullman pubblico. No, con questo qui che mi torturava. No, sì, vabbè, sono scusa che ti torturava. Stavi a scherzi a parte a scaccolarti, probabilmente buttavi le caccole. Non è che c'avevi il contenitore delle caccole. Quello gliel'avrei buttata. Ma esiste il contenitore delle caccole, peraltro? Esisterà un contenitore delle caccole, secondo me. Allora, la cosa fondamentale, però, è questa. Adesso, come al solito, mi hai fatto cambiare discorso. Io mi scacco ogni tanto, anche in ufficio, prendo e butto per terra. Devo dire la verità. Comunque, è così. Un maleducato, ma no, ma è normale la vita. Poi parla dei Rom. Poi dice dei Rom. Che c'entra i Rom? Dai, comunque, una università, non mi ricordo quale, ma non ce ne frega niente, ha fatto una ricerca. Ha fatto una ricerca e ha scoperto. Ma pure uno sporcaccione. Ha scoperto. Secondo me, non sono sincere le persone quando rispondono su questo. Che il 28% delle persone le lancia sul pavimento, il 7,6% le attacca sotto un mobile, che è anche un'altra tecnica, quella di attaccarle sotto, per esempio la gomma americana, eccetera. Ecco, ma anche qui la... sotto ci sono, aspetta che guardo qua sotto, che e l'8% addirittura, no, senti sotto, lo sai perché è interessante questa cosa? Perché questa ricerca dice che l'8% se le mangia, l'8% se le mangia. Sì, perché c'è un professore austriaco, non so che cazzo è, scacco bubolo, il quale dice che hanno alte proprietà nutritive, ti giuro, ci sono alte proprietà nutritive. Mancava questo. Noi abbiamo chiesto, perché vogliamo verificare tutto, abbiamo chiesto in giro per l'Italia, e così abbiamo fatto delle telefonate random. Il solito istituto di sondaggi. Se le persone, no, non mi ricordo, se le persone rispondono sinceramente. L'istituto governato da Mercù, il famoso istituto AIDS, governato dallo scienziato Alfa Testa. Stai zitto un attimo, senti. Mamma mia, che testa quell'uomo. Pronto? Sì, buonasera, qua all'Università Bocchini di Milano. Stiamo facendo un sondaggio sul muco nasale. Posso farle una domanda? Sul muco nasale? Sì, sul muco nasale, volgarmente dette caccole, signora. Vediamo cosa c'è. Signora, posso chiederle cosa fa delle sue caccole una volta estratte dal naso? Io non fai niente. Beh, ma qualcosa farà, signora. Non si terrà mica tutta quella poltiglia nel naso, no? Non faccio niente, mi non fai niente. Quando mi viene giù... Se mi viene il catarro, il coso, me soffio e tutto il resto, mi non fai niente, non mette niente, niente. Guardi signora, le do quattro possibilità. Depone le caccole nel fazzoletto, ne fa una pallina e la getta per terra. No, mai. Mai? No, proprio neanche una volta? Non butta mai via niente, mette sul fazzoletto, sempre mi apre ancora i fazzoletti, quelli di stoffa e mi lavo in lavatrice a me roba. Ah, addirittura, quindi sì. Non usa neanche i fazzoletti di carta? No. Non ha mai attaccato una caccola sotto un mobile di nascosto? No. Neanche a scuola, via? No, a scuola, dato che sono vecchia. Sì, lo so, ma una volta sarà pure andata a scuola, no? Sì, ma che a volte non si vede niente, con tutto mi ricordo 70 anni fa. Ah, capisco. Ecco. E c'è un'ultima possibilità, signora. Qualcuno mangia le proprie caccole. Mino. Allora Massimo da Fermo, però Massimo ti prego, ecco, non cominciare con le tue follie, cioè vai piano, vai tranquillo. Che cos'era questa storia della scorreggia? Non ho capito bene, cos'era? Allora... Adesso molti si sono stupiti perché io ho detto che prendo dal naso una caccola e la butto per terra. Ma sarà successo a tutti? È la natura, è la normalità. È la normalità. Certo. Tu che fai per esempio? Ecco, che fai rituale. Tu? Pure a me, io me le metto un attimo in bocca e poi le sputo. Vabbè, vai, tu sei ragazzi, questo non è un mondo, comunque è un'altra opzione, no, ragazzi, non è normale, dai. Non puoi far passare. No, ma non è un'opzione. Cioè, questa gente schifosa che chiama, che anche in parte è lo specchio di un paese ormai degradato, finito, che infatti poi vota la Lega. Ma che, cioè, adesso che c'entra? Che i leghisti scaccolano, scusa. Non lo so, però c'è una relazione molto forte tra il degrado morale di questo paese e la gente che chiama in diretta per raccontare senza vergogna e pudicizia quello che fa con queste, con queste cose. Cioè, mi sembra veramente ormai finito tutto per chiudere. Massimo sta dicendo in maniera molto sincera che prende una caccola, se la mette in bocca e la sputa. Devo dire, questo non l'ho mai fatto. Ma è gente schifosa. Con tutti comunque i miei difetti, no, non l'ho mai fatto. Massimo, schifo, non ho capito, ma perché non buttarla direttamente invece passarla per la bocca? Spiegami questa cosa. Ma così è una specie di tic nervoso, qualcosa del genere. Invece di mangiarlo la sputo. Che sia un tic, non c'è dubbio. Che sia anche un problema nervoso, un problema di testa anche. Perché io le prendo, la butto. Invece tu la ripassi per la bocca, la insalivi e la butti. Mi sembrano, delle effimere. Vogliamo tornare sul pezzo? Ma qual è il pezzo? Scusa, tu dici che lavori a Radio Out. Dov'è che lavori? Radio Out è una piccolissima radio, ma tosta. Ultime vecchio stile, una radio tutta parlata. Tutta parlata. Direttore Guardabassi. Ah, Guardabassi, mitico Guardabassi, quello della Rai, sì. Come mitico, no? Mitico, ex Rai. Sì, sì, conosco bene, lo conosco. Vabbè, ma allora, ma che stragazzo hai chiamato a fare? Spiegami, non ho capito, Massimo. Perché, dicevo, sulla scorreggia, che ma io perché ho, sulla scorreggia? Qual è il tema? Hai stabilito? Dimmi. Oh. Di scorreggia superiore, assolutamente a quelli dell'uomo. Soprattutto quando si cerca l'orgasmo insieme. No, ma non ho capito bene, cioè nel senso che è un tema molto complesso questo qua, della cioè del, come dire, del modo in cui una donna produce dei rumori durante l'atto sessuale, è un tema vastissimo, sì. Ne possiamo parlare a lungo, però perché dovrebbe essere un tema interessante? Qual è, che cos'è che c'hai nel cervello che ti suggerisce, voglio parlare di questa cosa, spiegami, qual è il punto? Perché quello che nessuno ha ancora detto, il mio nome d'arte è Nessuno. Ah, tu ti chiami Nessuno? A Radio Out ti fai chiamare? Devo ascoltare quello che dice a Radio Out. Perché però sei partito con la scorreggia delle donne. Comunque, vabbè, dimmi. Quando io gli lecco la figlia, prima di incominciare, ho fatto i patti chiari. Gli ho detto, guarda, non è che te devi sforzare di farla. Falla. Ma se scappa, non reprimerla. Ma qual è il rapporto? Tutti i muscoli della femmina per il raggiungimento dell'orgasmo, e primo fra tutti lo sfindere anale. Sì, vabbè, ho capito benissimo. Se devono rilassare. Ah, tu stai dicendo che comunque c'è il diritto a fare. Scusa, Beppe, se trattiene la scorreggia, l'orgasmo se ne va a data destinata. Vabbè, ma questo sono problemi delle donne al limite, non sono problemi tuoi. Comunque, Massimo, ho capito perfettamente. Sentirò quello che dici a Radio Out, Nessuno, Guardabassi. Fermo là, fermo. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. La Zanzara. Eleonora Brigliadori, ormai votata all'antivaccino. E non solo, sentiamo. Bisogna pensare che è solo l'io che ha causato queste deviazioni del genoma ed è solo l'io che le può recuperare. Per cui, in vera potenza, quando un uomo sceglie una malattia, deve affrontarla con l'idea che forse non ci riuscirà in una sola incarnazione, ma che è nel suo potere poter fare qualcosa affinché questa devianza generata nel passato possa ricomporsi nel futuro. Ecco. Allora, io non so se hai capito, perché spesso non si capisce quello che dice. Se un uomo ha una malattia non riuscirà a guarire in una sola vita, questo dice. Se un uomo ha, questa è la traduzione di quello che avete sentito. Ma chi è che dice sta se un uomo, la signora Brigliadori, se un uomo ha una malattia non riuscirà a guarire in una sola vita. Ma senti quest'altra cosa qua, i bambini della Terra dei Fuochi, senti. E tu sostieni circa il cancro che il cancro parte sempre dal cervello, dalla testa. Ora, la mia domanda è, ma vale anche per la Terra dei Fuochi? Perché lì si parla di bambini che nascono in quelle condizioni. Anche i bambini che vanno a nascere in un luogo dove c'è una problematica la scelgono perché, voglio dire, se così non fosse, l'umanità e la Terra sarebbe lasciata allo sbando. Per cui è proprio in virtù del fatto che nascono bambini dovunque che questi bambini portano in sé la volontà poi di rimediare a questi guasti. Io veramente non ho capito. Cioè, i bambini che nascono nella Terra dei Fuochi scelgono di nascere lì per rimediare. Cioè, ma ti rendi conto o no? Cioè, dai, su, ma dai. Siamo alla follia. Abinus ha detto che ha subito il primo vaccino con la febbre a 42 ed è uscita dal corpo, senti. Io ho subito il primo vaccino in una maniera molto singolare. Mi fecero una doppia dose di vaccino perché mia madre ottenne di farmi fare il vaccino sul gluteo. Io rischiai la morte, arrivai con una febbre a 42. Mi ricordo questa esperienza che uscì dal corpo praticamente. Io, avendo avuto una figlia che ha avuto i vaccini fino a 3 anni e praticamente l'ultima che non li ha quasi subiti, cos'è successo? Che ho visto come hanno affrontato le malattie tutti e tre con una forza completamente diversa. Quindi, cioè la più forte era? La più forte è quella che non si è vaccinata. Allora, dove andiamo? Andiamo a Latina, Francesco, vai. Giustamente mio cugino che è in macchina ci sta seguendo, dice meglio quando faceva filmetti. Bravo mio cugino. Mi Francesco, Latina, vai, perché... Francesco. Sì, mi senti? Dimmi. Pronto? Dimmi. Sì, ciao. Ascolta, mi volevo riallacciare ad un paragone che hai fatto te qualche puntata fa in merito al credere alla Madonna, per te è come credere nel Mago Telma. Adesso più o meno diciamo appunto... la fascinazione, l'immedesimazione in qualcosa di, no, in qualcosa di non visibile, cioè in una credenza è la stessa cosa, no? Più o meno la stessa cosa, con gradi diversi di importanza, eccetera. Tutto, cioè, vanno bene i toni della trasmissione, va bene tutto, cioè ti ascolto. Cioè, credere a Divino Telma o a Elohim è la stessa cosa del cristianesimo. Ma come si fa a dire una bestialità simile? Ma quello è un pagliaccio da baraccone. Ma una cosa è un fenomeno da baraccone. Una religione migliore. Perché gli altri come sono vestiti? Scusa, perché gli altri preti come sono vestiti? Ma no, ma come si fa a dire queste bestialità enormi? Mancanza di rispetto verso i credenti. Guarda Giuseppe, qua, con il massimo del rispetto, dai, mi devi credere veramente, perché ce l'ho veramente nei tuoi confronti, pur non stando sempre in linea con quello che pensa Parenzo, però anche con lui, però sei stato eccessivo, perché devi sapere, forse non lo sai o forse lo sai, hai fatto finta di non saperlo, che la Madonna, come è riconosciuta nella religione cristiana, anche nella religione musulmana, certo, è riconosciuta con un ruolo diverso, però comunque viene creduta, io l'ho vissuta come una sorta di disprezzo, poi per carità non me ne volere, però è sembrato un po' eccessivo, perché comunque, cioè, non tiene conto della fede, la fede comunque è una cosa abbastanza intima, e dirla così, presentarla così, è come credere nel Divino Telma, è stato un po' eccessivo, dai, permettimi. Io, va bene Francesco, ciao. Non me ne volere, Roberto da Cuneo, no, ma chi te ne vuole, assolutamente, Roberto Cuneo, vai. Sì, eccomi, buonasera. Dimmi. Buonasera. Allora, io percorrevo sereno con la radio spenta e avevo molti pensieri, penso abbastanza lucidi su tutta la problematica che coinvolge l'Italia. Ho acceso la radio e a un certo punto mi sono accorto di avere il vuoto nella testa per tutte le cose inutili di cui parlate. Sì. Mi sono chiesto se questo era il reale scopo di una radio. Invece la tua vita è utilissima, al contrario. No. Diciamo invece quello che fai tu è utilissimo. Io ci provo. E anche noi ci proviamo a fare il nostro. Noi facciamo uno show radiofonico. Se la cosa ti disturba, cambia canale. Perfetto, è la cosa che ho fatto in effetti. Bene, però poi hai riacceso e hai telefonato, come mai? Perché mi sentivo... Per masochismo. Questo tipo di messaggio, perché le menti vuote producono risultati molto scarsi, specie se gli argomenti sono così futili. Scusa, di grazia, quale sarebbe l'argomento che o il non argomento che ti ha portato a fare questa telefonata? Sempre se il professore, come dire, si degna di raccontarci la sua esperienza. Per carità, io sento parlare di sesso, sento parlare di cacca, di caccole. No, caccole in realtà questa volta, sì. Abbiamo parlato di sesso, in realtà abbiamo parlato di Depardieu con Siffredi, poi abbiamo parlato di caccole per 10 secondi. Sarei felice di sentirvi parlare una volta. Sì, eccolo. Dei Goim, dei Gentili, di Zacharias Sitking. Di chi, scusa? Di Mauro Biglino, ma giusto per dare una corretta coscienza all'umanità di cosa è, cioè degli schiavi emeriti che vengono rapinati giornalmente da questo sistema. Io però non ho capito. No, perché vuole parlare di quelli degli schiavi, questi, l'euro, queste robe qua, immagino. Il signor Parenzo, quello del popolo che ha fatto il patto, non ha capito. Ecco. Che ha fatto il patto con chi, scusami? Un pazzo, ecco, ma con Yahweh, ovviamente. Con chi? Ma no, basta bestemmiando. Con Geova o Yahweh o Yehovah, come volete chiamarlo. Ma non sa niente questo. Vabbè, ma tu sei malato di mente, dai, su, questa ma è la no, realtà. Solo malato, cioè, di perché mente. No, perché mi era all'inizio, il problema è che è in macchina, questo è il problema, che magari, capito, è pericoloso. No, perché mi era sembrato all'inizio una telefonata. Tranquillizza Parenzo, perché sono fermo. Quindi. No, ma mi era sembrata all'inizio una telefonata. Ci dica anche dov'è, così le mandiamo un aiuto in camice bianco. No, però mi era sembrata all'inizio una telefonata normale, serie di critiche, dicendo parlate di caccole, parlate con Rosso Così Freddi di sesso, eccetera. Invece lui vorrebbe che noi parlassimo di cose tipo delle cose che lo appassionano. Ma io sono contento che tu voglia questo. Il problema è che se noi parliamo dalla mattina alla sera delle cose che hai detto, chiudiamo baracche e burattini, cioè chiudiamo come così con la Claire, sai la Claire come rumore che fa? comprendere e concordare. Allora non è che comprende e concordare, se vuoi ascoltare questa cosa l'ascolti eccetera, ogni tanto abbiamo parlato anche delle cose di cui tu sei appassionato in realtà. Intercalare diciamo di argomenti, questo sarebbe più auspicato. Ma scusa, perché tu il sesso lo pratichi? Ma certo. Lo pratichi? Certo, anche se cerco di liberarmene, perché comprendo questo è interessante. Che è un progetto che l'umanità subisce. Beh, questo è buono. Lo subisce per un motivo semplice, Cruciani. Sì, dimmi. Perché la gente dura poco, perché se durasse tanto sarebbe problematica. E quindi deve creare un sostituto nel lavoro. Questo è il progetto, il sesso non è una scelta nostra, noi nasciamo con queste pulsioni. Non capisco quest'idea che noi subiamo il sesso, non ho capito, non ho capito bene, in che senso subiamo il sesso? Lo subiamo nel senso che appartiene, è una spinta che noi riceviamo, non è una scelta, è un programma che abbiamo insito dentro di noi. E chi ce lo fa questo programma, chi ce lo mette dentro? Ma parlano di interventi genetici della creazione prima Parenzo, dell'uomo. Parenzo, chiami tu? Che poi io l'avevi già allertata, visto poi che è fermo, avevo donna. Già provato ad allertare lo Stato Maggiore della Croce Rossa Internazionale. Ma però scusami Roberto, ma non mi puoi dire che però il sesso è qualcosa che noi subiamo, perché altrimenti qui siamo veramente alla follia. Ma io sono uno che ha, come dire, goduto molto del sesso. E però te ne vuoi liberare? Non me ne voglio liberare, semplicemente l'ho riconosciuto come una cosa problematica la cui funzione è quella di creare dei sostituti nella schiavitù che stiamo subendo. Vabbè, ma qui Parenzo siamo veramente alla follia. Oltre la follia, però Roberto, è una follia anche lucida quella che tu esprimi. Quella... Questo è il dramma. Sì, molto questo segna che la malattia è una non follia si lucida. Dicono che Elohim è un plurale, non è un singolare, quindi forse il politeismo sta alle radici delle nostre religioni e ce l'hanno spiegate un po' male. Ma perché tu credi in Elohim? Io, come dire, non è che credo, io metto insieme le testimonianze di Sitkin, quelle di Biglino, la traduzione. Ma tu della sei un raeliano? Sei un raeliano? No, assolutamente no. Non sei e mi si forma un quadro abbastanza preciso, ma su testimonianze, come dire, concrete. Ma assolutamente, no? Assolutamente. Roberto, ti ringrazio e ti saluto. Ciao, ciao. Tommaso da Venezia, vai, Tommaso. Buonasera, ciao. Dimmi, Giuseppe, dimmi. Ciao. Ok, subito vai, spariamo. Allora, volevo tornare su virus, visto che... Io, per carità, condivido, hai ragione su questo, Cruciani, però c'è una cosa. Porro non può elevare Red Ronnie a esponente di punta delle sue opinioni. Cioè, neanche Bruno Vespa fa una cosa del genere. Ha invitato Red Ronnie a fare una cosa sui vaccini, sì, sull'obbligatorietà dei vaccini. Lui. Basta, ma non può essere lui, lo decide chi conduce una trasmissione, non lo decidi tu. Ma non può farlo lui, se no, cazzo, dai, su, cioè, posso capire, può dare la sua testimonianza, nessun problema, cioè, va benissimo, però non può essere che lui rappresenti quell'opinione. Era l'opinione anti-vaccini che mi sembra abbastanza ben rappresentata, abbastanza rappresentata da Red Ronnie. Ciao Tommaso, Marco, Reggio Emilia, Marco. Ciao. Io volevo tornare a parlare delle caccole sperando che nessuno si incazzi. No, vai Marco, dimmi. Guarda, io invece avevo un vizio, lo mettevo in un sacchettino di plastica, le raccoglievo e le mettevo nel freezer. No, vabbè, ma non è possibile questa cosa, dai, tu stai dicendo che tu da piccolo mettevi le caccole e le mettevi nel freezer. Sì, nel freezer, in un sacchettino di plastica, e poi aspettavo e le contavo anche. Cioè, poi ovviamente... Poi sei guarito? Adesso, sei guarito da questa cosa? Abbastanza, dopo che mi è sanguinato il naso 4 volte. Quindi, e adesso che fai con le caccole? No, niente, le attacco su solo il ring di wrestling e basta. Che fai? Le attacchi? Sotto il ring del wrestling, dove faccio wrestling. Perché proprio wrestling? Ah, perché fai wrestling, le attacchi sotto il ring, invece di buttare per terra. Meglio per terra però a questo punto. Almeno qualcuno le spazza via poi. E quando gli avversari le toccano si fanno che almeno hanno un ricordo di me. Vabbè Marco, ciao. Ragazzi, abbiamo creato un mostro, il professor Lemme, caro Parenzo, è stato picchiato. Ho visto, è stato spicchiato dalla signora D'Urso. È stato picchiato dalla D'Urso. Chiamando mia figlia Ciccione. Ma perché si com'è sua figlia? È magra. Non è vero, tutti. Se lei vuole vedere. Lei. Come picchia una cicciona. Siamo no. Figlia cicciona, buffone di merda. Lei non sa quello che ha passato. Ecco lo schiaffo. No, per favore. Per favore. Per favore. Scusate, ma questo per favore. Queste sono le donne. Per favore. È matto, queste signora. Sono per favore. Allora, il bello è che la D'Urso diceva per favore, fermatevi. Intanto godeva, no? Godeva dello schiaffo, godeva dello schiaffo. Allora, c'è un motivo molto semplice. Abbiamo creato noi il professor Lemme, dopodiché è stato fagocitato dalla D'Urso, e che lo ha praticamente trasformato in una specie di produttore di share televisivo. Sì, assolutamente. Cioè, è evidente che siccome è la decima volta consecutiva che in un pezzo di trasmissione mettono Lemme contro Ciccioni, stavolta l'hanno picchiato, la prossima volta che ne so, tirerà fuori l'uccello, non so cosa potrà fare dicendo sono dimagrito anche qui, non lo so cosa potrà fare Lemme, lo hanno trasformato, perché io ho visto le curve, mi hanno fatto vedere, è pazzesco. Cioè, quando arriva Lemme con i Ciccioni a parlare di dieta, insultando, eccetera eccetera, c'è uno schizzo in alto pazzesco. Boom. Ciao, a domani. Viva la zanzara! La zanzara non si tocca! Non posso stare senza zanzara! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.